Buonasera a tutti, no? Sono Danilo Livia, no? Perché giustamente ci fossero delle persone nuove, come vedo anche, mi hanno affidato a suo tempo il ruolo di coordinatore, no? Degli incontri che noi facciamo normalmente quando ci incontriamo. E ecco, questa sera mi prendo direttamente l'incarico, no? Dopo eventualmente chiederò a Marta, no, se può aiutarmi, no, nel coordinare, ma questa sera vedo che siamo meno delle altre volte, quindi forse è anche più facile dopo anche lavorare assieme, no? E niente, quindi ho soltanto un ruolo di coordinatore dell'assemblea, dopo eventualmente anch'io interverrò nel proseguo di questo incontro, no? Però ci sono alcune cose importanti, no? Io volevo iniziare sicuramente contento di ritrovarci questa sera, sicuramente anche contento, non è retorica, perché nonostante tutto, di un percorso che abbiamo avviato e dei risultati che abbiamo avuto, nel senso che questa assemblea primarie vere per Como, no? Proprio come si era denominata, aveva iniziato il suo percorso chiedendo delle primarie, no? Per le prossime nell'area del centro-sinistra, quindi primarie di coalizione. Forse ripeto qualcosa che hai detto, ma io ritengo che questa sera sia stata importante, perché forse è la serata conclusiva di un percorso e poi riparte, no? Potrebbe ripartire con degli altri obiettivi. Però è anche giusto fare un attimo il riassunto di questo nostro percorso, che è iniziato a luglio. Questo è il quarto incontro, ci sono stati poi anche altri incontri qui, altri incontri che sono stati fatti, che sono state delle emanazioni anche di questa assemblea, e che ha creato sicuramente una grande attenzione nella città, o una parte della città, o perlomeno in un'area della città di Como, e l'abbiamo visto sia nelle presenze delle assemblee che ci sono state. L'ultima, quella che ha fatto con l'ARCI, no? Che è stata fatta a Porta Torre, no? Organizzata da noi, diciamo, dopo, io parlo noi, dopo se l'ha organizzata Luca Sassi piuttosto che Marta, piuttosto che un altro, no? Diciamo, e con l'ARCI ha visto la presenza di circa 150-170 persone effettive, in genere non li contiamo, no? Perché vogliamo così, non è come dire la questura cosa dice, noi diciamo facciamo la via di mezzo, no? Quindi di cui sicuramente c'è una base di una settantina di persone, un'ottantina di persone che sono sempre i cosiddetti fedelissimi, no? Però ci sono stati anche parecchi contatti, no? Su Facebook c'è stato un grande dibattito con degli alti e con dei bassi. Io l'orologio l'ho riguardato, l'ho visto uno degli ultimi post fatti da Fostituri, dove richiamava anche a un livello, no, di qualità anche nel dibattito su Facebook rispetto a certe situazioni. L'ho anche apprezzato di nuovo rileggendo, no? Però c'è stato sicuramente un grande interesse, si è sviluppato un grande interesse soprattutto anche per noi stessi, no? Per le persone che sono presenti. Io ho visto anche, cioè io dico, politica è una cosa impegnativa, ma deve essere anche qualcosa di bello per noi, no? Per me la politica è una cosa estremamente impegnativa, estremamente seria, ma deve essere anche possibilmente vissuta in modo anche contento, no? Diciamo così. Per cui dicevo, questa sera volevo proprio introdurre, no, questo fatto di un risultato positivo. Dopo tantissimo tempo, no, ci sono trovate persone diverse, con pensieri diversi. Io volevo fare una battuta sugli extremisti, no, di una volta, no, che sono diventati forse non troppo, almeno secondo un post che è stato messo ultimamente, con neo nuovi, giovani, no, persone diverse, che si sono trovate a discutere, a dibattere, e stanno discutendo e dibattendo, anche forse in vari ambiti, poi anche forse separati, no? Però stanno dibattendo su un tema che è quello dell'amministrazione, quello di come governare, di come vivere il territorio a Como, in un modo diverso, no? Il primo obiettivo è quello di vincere le elezioni e quindi vincere le prossime elezioni comunali a Como, no? E questo secondo me è un fatto estremamente positivo. Io dico che questa nostra esperienza che stiamo vivendo adesso, no, ha coinvolto anche le forze politiche locali, secondo me, dico, senza poi chissà avere che cosa, nel senso di dire, e qui ci sono anche delle persone che sono dei rappresentanti politici, no? che hanno partecipato a questo percorso, che potrebbero anche eventualmente o contestarmi quello che dico, oppure se vogliono anche intervenire, no? Ma nel senso che questo tipo di esperienza nostra, sicuramente un po' fluida, no? Con degli alti e con dei bassi, con dei toni diversi, eccetera, però è riuscita, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda i contatti, anche a coinvolgere anche parte delle forze politiche, no? Che hanno discusso con noi. Cioè con noi, ma che non era mai successo tanto, no, nel passato, che i partiti sono sempre partiti, no, almeno e che hanno delle loro regole per cui vogliono anche ragionare in un certo modo. Io dico, hanno discusso con noi alla pari, no, qui ci sono dei testimoni di persone che hanno partecipato a degli incontri e devo dire, ci sono stati sicuramente degli scontri, ma è giusto, è normale, ci devono essere dei confronti, dei dissensi, delle mediazioni, no, sicuramente, per cui che hanno portato che cosa? A dei documenti che servono per le primarie, no? Che sono una carta di valori, un regolamento, un regolamento e un codice di autoregolamentazione. Sicuramente, io dico, questo è stato fatto, sicuramente stasera ne possiamo anche discutere, certo non si può più cambiare perché c'erano anche dei tempi tecnici, eccetera, però io dico che è un fatto che 5 o 6 forze politiche, tra cui noi, si sono messi intorno a un tavolo, hanno discusso in un tempo breve, sono riusciti a trovare una sintesi, per me è un fatto decisamente positivo, rispettando i contenuti sicuramente minimi per tutti, sicuramente certi punti avrebbero potuto essere anche forse posti meglio, scritti in un altro modo, però che rappresentano tutti. Per la prima volta ho sentito spesso e sempre parlare della solidarietà, della stima, del fatto che chiunque vinca deve avere l'appoggio di tutti gli altri. Non c'è mai stato, no? Dico, non c'è mai, può darsi che potrebbe, può anche non accadere, no? Ma io non ci credo, perché secondo me è troppo forte anche questa esigenza, questa ansia che deriva forse anche da altre esperienze di andare a provarci a governare veramente un territorio. E poi tra dire e fare c'è di mezzo un bel po' di cose, perché poi sembra così semplice, perché vediamo anche se guardiamo nelle cose milanesi, no? Poi si entra nella cosa e ci sono i problemi, dicono che non è da poco. Però ci vogliamo provare, e ci vogliamo provare su contenuti sicuramente diversi, su contenuti innovativi, ci dobbiamo battere per quello, perché niente è dato per scontato, no? Oggi, no? Dico, assolutamente, no? È tutto da costruire, no? Però abbiamo un obiettivo immediato, no? Che è quello delle primarie, no? E questa sera la scaletta, se avete visto nella cosa, è quella della discussione, e io qui concludo, dei tre, cioè una mera illustrazione dei tre documenti. Dobbiamo a livello tecnico nominare due rappresentanti nel comitato di organizzazione e un rappresentante nella, come si chiama? Comitato di garanzia. Comitato di garanzia, no? Che ha una funzione di garanzia rispetto al regolare funzionamento delle primarie, e l'altro è un po' più pratico, c'è bisogno di qualcuno che abbia anche un attimo di tempo a disposizione, no? E questo dobbiamo darlo, perché dobbiamo comunicare al comitato organizzatore, al comitato promotore, no? I nominativi per poter poi iniziare e dare il via alle primarie. Io ho qui la documentazione anche per la raccolta delle firme, no? E tutto l'altro materiale, che però ho già messo in giro, no? Te l'ho mandato, no? Così eventualmente a far girare, che mi è stato tempestivamente inviato. E questa è la prima parte della serata, no? La seconda parte invece è quella di discutere o di dare spazio, perché noi abbiamo parlato di questa assemblea come un'assemblea di garanzia, spazio aperto, eccetera, eccetera, non sto a ripetere tutte queste cose, ecco, forse quello poi più importante, no? Diciamo nel discorso. E per ultimo, no, il ruolo futuro dell'assemblea stessa. Ecco, allora, io direi, Io penso che noi i documenti li abbiamo messi tutti in rete, sono là anche la carta dei valori, sì. La carta dei valori, chi non l'avesse avuta in rete, chi non ha potuto scaricarla, vederla, leggerla, ce l'ha lì a disposizione e qualche copia la può leggere, no? Se volete la leggo anche velocissimamente, se volete, no? Oppure alcuni punti. No, perché sennò finiamo. Esatto, niente, lasciamo, dico. Pertanto io invito. Su questi tre documenti, io ho visto che su Facebook era intervenuto in modo molto chiaro e sintetico, riassumendo questi documenti nei suoi aspetti principali, il Guido Capizzi, no? Quali erano i problemi più grossi, no? Al di là del discorso della carta dei valori? Era il numero delle firme e la certificazione delle firme, giusto? Il numero delle firme, noi eravamo partiti dall'un per mille della popolazione, quindi 80 persone. Erano partiti altri con 300 firme, la volta scorsa erano 250 firme, abbiamo aderito, abbiamo concordato sulle 250 firme, dando però possibilità al candidato sindaco e a quattro sue persone indicate per certificare l'autenticità delle firme, mentre all'inizio copiando uno schema di regolamento base che probabilmente gira in mezza Italia, no? Che era quello dei consiglieri comunali, eccetera, eccetera. Siccome persone avrebbero potuto non avere questa disponibilità e l'abbiamo discusso, poi era stato accettato, no? Quindi sostanzialmente quattro certificatori più il candidato stesso, oltre i consiglieri comunali, provinciali, eccetera, eccetera, così che possono fare, no? Poi a livello di regolamento. 4 per ciascun candidato. Come? 4 per ciascun candidato. Sì, 4 per ciascun candidato. Sì. 4 per ciascun, cioè ogni candidato. Quindi poi il candidato quando si presenterà, che sottoscriverà la carta dei valori, no? Farà la comunicazione al comitato di garanzia, per quello che abbiamo bisogno stasera di nominare poi il comitato di garanzia, il quale darà il via per le certificazioni. Bene, io mi fermerei qui. Se qualcuno... Io entro, qual è la data? Da oggi non c'è nessuna data. Noi la scadenza, ecco, il 20 di ottobre, 21 di ottobre, ecco, il 21 di ottobre si possono portare le entro il 21 di ottobre. Poi le primarie sono state fissate per il 27 di novembre. In un primo momento si era parlato del 20, poi abbiamo detto, visto che siamo leggermente in ritardo, eccetera, anche una settimana in più serviva, quindi dal 20 di ottobre al 27 di novembre c'è la possibilità di un mese passa per fare la campagna, che comunque di fatto già con l'inizio della raccolta delle firme è evidente che inizia, no? Diciamo così. Io darei la parola a chi vuole fare delle domande, o se ho dimenticato qualcosa. Giusto, brava. C'è un altro aspetto, l'aspetto economico della gestione delle primarie, no? Abbiamo fatto un conteggio rispetto alle vecchie, per la gestione delle primarie, cioè per la promozione, non per quello che i candidati possono spendere, e hanno come limite massimo è stato previsto 5.000 euro, no? Ma però per la promozione generale delle primarie, per eventualmente andare a recuperare delle sale o andare a votare, eccetera, tutto il resto, si è previsto una spesa di circa 7.000 euro. Prima sembrava 5.000, è diventata 7.000. E io ho cominciato oggi, tanto tranquillamente, a discutere con, perché mi è stato dato incarico, con il responsabile del Comparizzolo, no? Su come dividere le spese. Io ho buttato lì, non so, forse. Non so se da discutere adesso, no? Diciamo, però una proposta dove dico il PD, lo dico molto, molto sinteticamente, così dopo non andare a discutere, il PD è il partito più grosso, quindi è quello che deve mettere di più, no? E gli altri dovranno mettere in proporzione, no? Io adesso abbiamo l'esigenza di raccogliere un 3.000 euro, no? Noi abbiamo messo lì, per chi volesse, no? Una scatoletta, un'urna, no? Che adesso è vuota perché la gente non lo sapeva, ma dopo potassi fanno tutti la corsa per mettere i soldi, no? Abbiamo messo lì una scatoletta dove cominciamo a raccogliere anche dei soldi, no? Perché altrimenti in queste cose, vabbè, ci sono i promotori, no? Che sicuramente garantiranno la cosa, però io credo che in questa fase, no? Soprattutto anche per questa cosa, se chiunque voglia mettere. Quando è stato chiesto? Allora, io ho fatto una prima proposta, che è questa qui. su quasi 3.000, gli ho detto, il 50% li paga il PD e il 50% tutti gli altri. Adesso sono qui per di sé, non so se... nel senso di dire che verrebbe fuori un 375 euro a testa noi, no? Mettendoci assieme, no? Io dico, ma non perché, perché siamo un po' più piccoli, no? Diciamo così. Dopo, se per caso in sede di discussione riesco a fare 75% al PD e 25% a noi, in questa cosa va bene, noi intendo tutti gli altri, dico, può andare. È un'indicazione, abbiamo cominciato a parlare oggi con Palizzoli, sai, quando si parla di soldi, no? Adesso lo dico un po' scherzosamente, ma mettiamola anche su questi termini, non è che una cosa così. Era chiaro che il Partito Democratico, che è anche la struttura più grande, no? Era chiaro anche per loro, diciamo. Io dico, e poi sulla perché la copertura delle spese poi avverrebbe con il versamento di 2 euro per ogni votante, no? Dato che i votanti, presumiamo, l'altra volta era stato i 2.300, non mi ricordo bene quanti, si presume adesso che possono essere molto di più, 2.078, se riusciamo a portare 4.000 votanti, 5.000 votanti, dico alle primarie, dico, sarebbe un obiettivo che dobbiamo porci tutti, no? Perché dico, se altrimenti, beh, le spese sono coperte, no? Ampiamente. E avremmo deciso, no? Abbiamo dato l'indicazione che poi i soldi che rimanevano sarebbero confluiti per il candidato sindaco per le spese, che io ho scoperto che non è poco, no? Guardo qui quando ci sono sottoscrizioni varie, no? Dico così. Cioè la campagna elettorale costa. Per noi poco, nel senso rispetto a quelli che spendono tanti anni, però 80-100 mila euro, una cosa di questo genere, no? Così. Io aspetto, se qualcuno vuole intervenire su questi documenti o per chiarimenti o per altro, sicuramente ho dimenticato tante cose. No? Io volevo chiedere un chiarimento. Sì. Non sono stato presente alle scorse assemblee, quindi non so. Sono stati votati questi documenti? No. Sono stati, perché è stata data una delega a un gruppo di discuterli, no? Infatti ho visto anche ricomposto, no? Davvero. È stata data una delega di discuterli, no? C'è stata una grande discussione all'interno del gruppo di persone che forse avevamo anche messo in circolazione. No, però un momento, sono stati messi in riunione. Esatto. E è stata data la possibilità, bravo, di intervenire. Dopodiché, ovviamente, per motivi logistici abbiamo dovuto dare dei limiti, però alcune persone sono intervenute e sì, hanno portato. L'ultima volta, precisiamo, è vero, abbiamo messo in rete il documento, abbiamo detto chi voleva venire alla riunione avrebbe potuto venire, intervenire e lì fare presente. Certo che sappiamo benissimo che ha dei limiti, ecco, l'informazione. Sì, io ho una cosa da dire, cioè io trovo che i tempi siano veramente molto stretti, le firme molto elevate, nonostante di aver avuto l'obiettivo di avere di facilitare, diciamo così, l'obiettivo della raccolta delle firme, e francamente mi sembra un modo semplicemente per chiudere uno spazio, non per aprirlo. E quindi io mi sentirei di proporre ai partiti, anche perché non c'è una questa enorme fretta di chiudere i tempi, di allungare questi tempi, di allungare sia i tempi della raccolta delle firme sia i tempi delle primarie, perché il 27 novembre io non ho capito che significato ha. I tempi stringono, però se un senso hanno le primarie è perché devono mobilitare la città e solo la mobilitazione della città farà vincere o può spingere a vincere la fortissima organizzazione del centro-destra. Quindi tutta questa fretta non la interpreterei come di carattere logistico, ma invece ha un significato politico. E io inviterei tutti a fare questa riflessione, inviterei l'Assemblea a chiedere che vengano dilazionati per dare modo di mobilitarsi per davvero alla città. Temo che abbia ragione Luca. Perché volevo dire le stesse cose io. Stanno accorciando i tempi per ragioni burocratiche e di egemonia da parte dell'esistente, tenuto conto che noi siamo in fase organizzativa. Però ha ragione Luca, dico, o socializziamo al massimo le primarie o che senso hanno? No? L'altra volta furono un fallimento, perché riuscimmo a portare meno di 3.000 persone, facendo uno sforzo anche rilevante, con tempi anche abbastanza lunghi. C'è però una carenza, secondo me. Noi stiamo sottovalutando le elezioni provinciali. E questo è, secondo me, un tragico errore. Io sono ho già firmato per il referendum, tra parentesi, il comune non ha più voto. Non si capisce come mai la gente che è andata a firmare ieri non ha trovato i moduli, bisognerà anche intervenire su queste cose. Ma no, dico, al di là che siccome adesso scatta il censimento e voglia, per 10 anni ce la cuffiamo ancora la provincia, no? Perché riusciranno di... Però consiglierei all'assemblea, a noi presenti, di cominciare a ragionare anche alle primarie provinciali. Se non servono da contrappeso o da intrallazzo generale fra le forze politiche, e siccome la provincia è divisa in collegi uninominali provinciali, cioè c'è un candidato di area e ne abbiamo sia in convalle, no, che in città parecchi di collegi, sarebbe bene non solo per la città, ma visto che noi abbiamo molte persone estranee alla città, di vedere cosa possiamo, se possiamo muoverci altresì per le elezioni primarie per la provincia, tenuto conto che in certe aree, qui concludo, sono importanti le provinciali per scalzare i secessionisti, i leghisti, che in determinate aree, no, hanno una loro forza che secondo me va scalzata, no, a costo di noi dalla città di spostarci in gruppi di combattimento democratici da quelle parti. Ecco perché ritengo di fare una riflessione sull'eventualità di occuparci altresì, no, come possiamo con le forze che abbiamo, delle primarie per i collegi presidente e singoli collegi uninominali. Io vorrei che venisse messa ai voti la mia proposta. Sì, sì, un attimo. Adesso discutiamo, dopo votiamo. No, mi stanno dicendo che la proposta è concreta. Allora, io appoggio la proposta di Luca. Io credo che dobbiamo ripensare un po' il senso di queste primarie. Il senso del primario è il coinvolgimento e la democrazia. E se vogliamo realmente coinvolgere le persone, non possiamo dargli degli out-out. Cioè dire, firma qui, dopo ti spiego. Ok, non va bene questa cosa. Quindi appoggio anche il fatto che questa proposta di rimandare entro la fine dell'anno lo svolgimento delle primarie sia votata dall'assemblea e sia svoltata e riportata poi nella discussione nei confronti dei partiti organizzati, perché la scelta dei tempi, velatamente Luca lo diceva prima, ma è una scelta a vantaggio di chi è già organizzato e non della discussione politica. No, mi piace da lui, dopo lei poi tu. Poi tu. Sono molto perplesso, sono anche un po' sconcertato. Mi sembra che parlare di primarie vere sia stata un'esigenza soprattutto da parte di chi non ha tessere di partito o da chi in qualche modo non è rappresentato dalle forze politiche esistenti sul territorio, da un centro-sinistra a dir poco deludente per l'esperienza uscente in consiglio comunale e sul territorio. Per cui il fatto di aver partecipato in qualche modo agli incontri, di avere supportato la discussione, era perché era importante creare uno spazio, avere uno spazio nuovo nel quale confrontarci, misurarci, votare, esprimersi, eccetera. Io sono rimasto abbastanza allibito sabato scorso quando, per ragioni professionali, ho partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle primarie, dove mi sono trovato davanti due persone che ho dovuto chiedere a Danilo chi erano, perché non sapevo neanche mettergli il nome alla didascalia della fotografia, ed erano i due rappresentanti di due forze politiche che hanno firmato un documento. Io dico, ma questi qua da dove escono? Chi sono? Chi rappresentano? Cioè, questi, mi sembra che stiamo tornando alle vecchie logiche, cioè, non me ne frega un cazzo, ma è di primaria di questo tipo, non me ne frega proprio niente. Poi fate quello che volete, io non ci starò. Grazie. Io volevo solo dire che io e altre persone abbiamo partecipato al tavolo delle regole, avremmo fatto un lavoro sbagliato evidentemente, però è stato sottoscritto e Danilo ha messo la sua firma in qualità di comitato promotore. Se l'assemblea voterà un'altra cosa è legittimo e eleggerà poi dei rappresentanti che andranno al tavolo di questi partiti a dire abbiamo cambiato idea e facciamo in un altro modo, perché non credo che sia... Tutte le critiche sono giuste, possibili, accettabili, è vero, però noi abbiamo scelto di sceglierci a quel tavolo e abbiamo scelto un discorso, abbiamo sbagliato, non lo so, ritengo che non è che si può... Abbiamo firmato delle cose, abbiamo sottoscritto un patto, non è che poi dopo domani qualcuno dice ah però e si va e lì si cambia un'altra volta, non credo che sia un modo serio di lavorare. Un attimo, in ordine, scusami, Cristina, altrimenti. Perché sta gestendo una... Sì, in ordine, no. Due questioni. Pensando alla conferenza stampa di sabato, mi viene in mente che le forze... Scusa un attimo, ci sono dei posti qui davanti, a chi vuole venire può venire tranquillamente, scusami. Le forze dell'area del centro-sinistra non erano tutte presenti né aderenti alla proposta. Si è detto beh aspettiamo perché essi aspettano segnali dall'alto. Poniamo che segnali arrivi in fine corsa, problema. Per chi? Per quelli che poi salgono sul carro in corsa. Allora, è un problema perché queste riflessioni le facevo già alla fine della conferenza. Perché poi è un problema di credibilità. Metti tutto a caso che quello mette a segno un risultato, tu pensi che gli altri votino questo, oppure con la sottoscrizione, è un problema. Quindi occorre, credo, che vengano sollecitate queste forze a fare scelte rapide. Una premessa è che questo organismo si doti di una struttura organizzativa capace di insomma, essere rappresentativa, che si è legittimata a fare, a contattare e a compiere anche delle scelte su deleghe dell'assemblea. Mi pare importante, altrimenti si va sul così le cose un po' approssimate, no? Non danno molti risultati. Per essere sempre conciso, torno sul tema che si è citato, che è stato sollevato prima delle firme. Diceva bene prima Carlo, attenzione, noi gareggiamo con macchine agguerrite, nel senso come dire, politico, no? Sono macchine rodate, esperte, capaci di mettere in campo strumenti e forse noi neanche ci immaginiamo, almeno io me li immagino molto bene. Quando si parla di come si fa a trovare in fretta le firme. Allora, a me interessa però che chi firma sia una garanzia. Cioè, se dico a lui, senti, dai la firma, lo devo convincere, poi devo fidarmi che lui mi dà la firma dopo, non soltanto come forma adesso, dopo quando siamo nell'urna. Ora, per fare questo cosa occorre? Occorre inventarsi quello che non c'è. Che cosa? No? Creare dei comitati, che va magari un luogo permanente della portafirma, per esempio, dei comitati che vadano nei porti dove c'è gente di base, i violi, gli arancioni, i cartensori, i giovani, no? Chi mangia, chi beve, e spiega un attimo, sei disposto a dare un'altra firma per questo motivo? Quello se me la dà, penso che poi me lo posso ritrovare anche dopo, quando andiamo al voto. Ecco, quindi la macchina organizzativa, strutturata, forte, rodata, capace di, va affrontata con una messa in campo di un po' di creatività, un po' di roba nuova, no? Ecco, ma soprattutto, ritorno, sono già detto, un nucleo dirigente più strutturato verso chi ci voglia. Capisci? Hai citato il post che ho inserito in film. Magari qualcuno l'ha letto, ma il riassunto era questo. Tu hai messo nell'ordine del giorno, nella mia che mandato, discussione su carta dei valori, che a questo punto avendo approvata è una cosa abbastanza inutile, prego regolamento, codice di autoregolamentazione, nomina nel comitato organizzatore del comitato di garanzia, ruolo dell'assemblea, che mi pare il punto sul quale dovremmo focalizzarci meglio, e le candidature. Allora mettiamola così, diamo per acquisito che si tratta e si tratterà di, anche se qualche dubbio faccio sempre, di primarie vere dell'area di centrosinistra. Io ancora, se si dà per definito qualcosa, non mi va di sorvolare così a pie pari e acriticamente sull'assenza di alcune forze dell'area di centrosinistra. Ne cito due e mezzo come area di centrosinistra: FED, Rifondazione Comunista e l'Italia dei Valori, dalla sottoscrizione della Carta dei Valori, o meglio dal aver creato, non aver creato delle opportunità perché anche con questi altri soggetti si potesse arrivare a una definizione di Carta dei Valori, codice di autoregolamentazione. Qui non so se è un chiamarsi fuori da parte di altri dalla prima fase del percorso comune per la scelta del candidato sindaco di Como nell'area di centrosinistra. Non dovremmo nemmeno sorvolare sulla scelta sottoscritta anche da questa, dai delegati di questa assemblea, in merito al numero di firme per appoggiare la presentazione dei candidati da 250 a 300 e qualcuno ha già sottolineato questo fatto. Io personalmente lo leggo come un parziale insuccesso di questa assemblea, ovvero l'essersi adeguati, adagiati su scelte definite da altri partner, perché l'avevano già definite, se prendiamo per buoni gli interventi fatti anche in Facebook da qualcuno del PD o di Parco. Ora, tu ci inviti a discutere sul ruolo dell'Assemblea, nonché a nominare i nostri rappresentanti nei comitati organizzatore e di garanzia. Allora, qui sorvolo sul due nostri rappresentanti secondo il regolamento composto da un numero non superiore a 10, quindi in pratica ci sono 5 forze, a ciascuno ne competono due, e anche al rappresentante della commissione di garanzia di provata esperienza e riconosciuta autorevolezza, come dice il regolamento, che dice questo, e diventa anche un po' difficile poi, cioè provate esperienza politica perché siamo stati negli anni passati ex estremisti o provate per cui anche lì forse il passo più decisivo è che questa assemblea discuta sul suo ruolo, che anch'io condivido il fatto che i tempi sono strettissimi, la data del 27 di novembre è messa lì, ovviamente con qualche ragione che ci darà qualcun altro, ma con qualche dubbio che c'è in qualcun altro. Il regolamento ci dice che dovrebbero svolgersi assemblee e confronto tra i candidati nei 20 giorni antecedenti la data di svolgimento delle primarie, dunque non prima del 7 novembre, se si tiene conto, non si potrebbero svolgere, e anche questo credo che, non so se i nostri delegati che sono stati là a firmare si sono accorti di questo passaggio, che sinceramente cioè uno non può organizzare prima un'assemblea di confronto, sì, tra tutti i candidati, che tra l'altro si presentano entro il 21 di ottobre, per cui perché aspettare di nuovo dal 21 di ottobre al 7 di novembre senza dare un'occasione di primo confronto? Perché tutto sommato questa assemblea, adesso chiudo per non annoiarvi, questa assemblea aveva detto andiamo nei quartieri, andiamo incontro alla gente. La prima assemblea la sala era piena, la seconda assemblea la sala era piena e c'era un terzo se non di più che, di persone che non c'erano la prima. La terza assemblea nuovamente con, per cui di gente se ne è. Io la leggo come interesse della gente a partecipare e a dire la sua. Quindi bisogna andare nei quartieri, a incontrare. Il ruolo di questa assemblea è mettere intorno a un tavolo tutti i candidati delle primarie vere che si confrontano su certi temi. Se abbiamo dal 7 al 27, teniamo buone queste date, abbiamo una, due, tre settimane, due assemblee a settimana, sono sei incontri su tematiche dove ci deve essere il confronto, perché secondo me è questo, cioè, se no se stiamo qui a parlarci sempre tra di noi o al tavolo con gli altri della... Grazie. Io appena ho sentito che le prime robe raccolte mi ricordo che non solo pensate cosa siamo qui a parlare allora di cosa, nel senso, pur capendo la situazione in cui si è trovato chi è andato, perché la minima esperienza, non si era, l'assemblea avevamo discusso del numero delle firme e tutto, non c'era venuto in mente di discutere delle date, sinceramente. Quindi chi si è trovato lì, una decisione, non vuole essere una critica personale. Ciò non toglie che se sogniamo le 250 firme e il 21 ottobre, quindi siamo qui a parlare di cosa, vuol dire che chi è già organizzato una cosa se la sistema, se qualcuno ha voglia di candidarsi, qualcuno vuole stimolare qualcun altro a candidarsi, non ne ha il tempo proprio matematico, nel senso 250 firme sono veramente tante, in neanche un mese, perché oggi è già il 20, quindi... mi dà l'aria che ci sono, come dire, i giochi sono fatti, abbiamo dato delle regole, stiamo garantendo, ma fino a un certo punto. Cioè, dicendo come quando ho sentito questa data, come l'ho vissuta, no? Io la sto sentendo così. Anche perché sentendo lui, visto che poi tanto che non sono altro dato, non c'è questo confronto dei candidati, la raccolta firme si può spostare un pochino più là alla fine della raccolta firme. Secondo me è importante questa cosa, non so fino a che punto si può dire no, la ricontattiamo perché chi è andato si è trovato lì, la decisione l'ha dovuta prendere, però secondo me sommato le 250 firme, le due cose messe insieme anche, capito? Non, anche perché al momento in cui io firmo con un candidato voglio anche sapere cosa mi sta proponendo, finora di programmi, di idee, a parte qui che è venuto fuori qualcosa, non si sa nulla. Per me è imprescindibile la tua pubblica vera. Che poi c'è chi dice pubblica e in realtà dice sì, però lasciamo di privatizzare. Quindi vorrei anche sapere come ci sono altri argomenti, adesso non è solo questo. Quindi prima di firmare per qualcuno vorrei anche capire. Quindi è anche importante, adesso se noi nominiamo dei delegati che vanno dei garanti, dovremmo anche avere bene in mente cosa vanno a fare, esattamente come lo vanno, quali problemi si troveranno, se no può ricapitare un'altra situazione di questo tipo, che mette un po' l'imbarazzo, sia chi è andato, ma sia chi è qui, perché dice, cioè c'è una situazione proprio, visto che non è stato garante questa assemblea di fare delle primarie che avessero un senso, non come le precedenti, però stiamo scivolando su un pericolo che, nonostante il lavoro fatto, poi alla fine non lo siano per dei meccanismi che vengono inseriti. Quindi bisogna stare molto attenti. Poi ovviamente vabbè, la seconda parte sarà più ruolo di questa assemblea dove noi anche parliamo dopo, quindi, giusto? Vediamo in due. Patrizia. Sì, io voglio dire una cosa. Dalle prime volte che ci siamo trovati con Danilo, che eravamo in pochi, io ho sempre detto che era già tardi e questo me dai atto. Che fosse tardi lo sapevamo tutti. Sì, sì. Se era tardi è perché nessuno delle persone che è qui era stato capace prima di prendersi la briga, di mettersi intorno, cercare di organizzare qualcosa e muoversi per tempo. Cioè queste cose se si volevano fare con le discussioni, i tempi e tutto, si facevano 2 anni fa. Allora, siccome siamo arrivati a questo punto, adesso essere sempre in queste assemblee della sinistra, ho quasi 50 anni per cui lo posso anche dire, che continuiamo a spaccare cappello in quattro su delle questioni, le date, il numero. Allora, se c'è qualcuno, le primarie sono vere, questa è la mia idea, le primarie sono vere se c'è la possibilità di presentarsi per chiunque seguendo un minimo di regole. E la regola della data del 27 mi sembra legittima, perché se non c'è un candidato del centro-sinistra prima di Natale, che possa poi farla la campagna elettorale, perché le elezioni sono fra marzo e giugno, non ho capito che cosa dobbiamo andare a fare, perché poi le elezioni che valgono sono quelle, non queste, queste valgono, ma le elezioni che noi dobbiamo fare sono le altre. Quindi ci deve essere il tempo per fare la campagna elettorale, il periodo di Natale è fondamentale per un candidato per fare campagna elettorale, per cui invece tutta questa bella energia che abbiamo per discutere e tagliare ancora il capello in quattro e dividerci, andare a vedere chi è più di sinistra, chi è più di sinistra e chi è più di qua e più di là, usiamola per parlare con le persone che abbiamo intorno, per cercare di portare più gente possibile a votare, di quelli che non sono andati a votare, perché il problema di come l'astensionismo, usiamola per questo, usiamola e lavoriamo da adesso. Le regole sono delle regole, non saranno perfette, ma noi abbiamo iniziato 2 mesi fa, ma cara grazia. Cioè voglio dire, ma che cosa vogliamo, perché se invece del 27 novembre fosse stato un 15 la nostra situazione cambiava? No, non cambiava, perché noi muoviamoci con questa energia che abbiamo, se le energie ci sono e se i numeri per qualche candidato extra ci sono, potrà fare 250 firme, perché altrimenti se non ha 250 firme non ha neanche 250 voti, è inutile che si presenti. Cioè le primarie vere sono vere nel momento in cui c'è la garanzia di potersi presentare, ma non è che per forza ci deve essere, se il candidato non c'è o se il candidato non è in grado di presentarsi, non possiamo dare la colpa alle regole. Allora diamo la colpa a chi ci siamo mossi tardi o che non abbiamo le forze necessarie per portare avanti questa cosa, e guardiamo invece, cerchiamo di averle queste forze e muoviamoci verso le persone, parliamo con gli altri, non continuiamo a parlarci addosso, dobbiamo lavorare sul territorio, cominciamo le persone ad andare a votare alle primarie per cercare di coinvolgerle poi ad andare a votare nelle elezioni e a chiudere questa spirale di astensionismo, che proprio su Como vede che nelle ultime 3 tornate elettorali i 2 blocchi sono sempre statici. Quello, l'unica cosa che cambia è che c'è sempre più gente che non va a votare. Questo noi dobbiamo combattere, lo combattiamo parlando con i nostri vicini di casa, con quelli con cui lavoriamo, muoviamoci in questo senso, usiamo l'energia per questo. Questa assemblea deve restare un luogo dove ci si può confrontare, dove chiunque si candidi può venire qui e dire come la pensa su dei temi che organizzeremo, e saranno dei temi che dovrebbero essere i temi, diciamo, centrali, su argomenti che possono essere nelle circoscrizioni temi per la città. Ma usiamo l'energia in senso positivo, non stiamo qui a tagliare il capello in quattro, scusate, ma ripeto, sono vecchia e sono stufa di sentir sempre discutere e incistarsi su dei problemi che è vero che si poteva fare di meglio, ma bisognava partire prima. Allora cosa facciamo adesso? Ci diamo le martellate sui piedi? No. Grazie. Domenico. No. Domenico. Democratico di... Grazie. No, democratico di partecipare anche a applaudire, no? Scusa. Beh, adesso non è che fai segare. La prima volta. Giusto. Domenico Carcavari. È conosciutissimo. Premessa. Oggi, tardo pomeriggio, ho avuto l'opportunità di avere i 3 documenti. Quindi non ho avuto tempo di guardarli, tranne qualche punto sulla carta dei valori che mi possono dare anche a me. Detto fatta questa premessa, se qualcuno si vuole aggiungere, questi 3 documenti è possibile modificare? No. Se dico, si trovano le opportunità, cioè secondo me c'è un punto non va bene, è modificabile o no? Devo rispondere subito? No, non è un problema, dico, mi possono andare bene, ripeto, no, alcuni punti che ho guardati e mi va bene, però come sono 3 documenti potrei dire qua non mi va bene, là lo potremmo aggiustare, mi convengo. Non sono modificabili. Non sono modificabili, volevo questo chiarimento, grazie. Da Luca Pozzoni. Scusami, no, visto che la signora giustamente ha detto. No, io all'inizio dell'assemblea chiedevo se questo documento è stato votato, perché, come scrivo già in Facebook, io non ho fatto 68, però quanto mi risulta nelle assemblee si decide votando collegialmente. Ora io non so, è la prima volta che vengo a questa assemblea, quindi non vi conosco neanche personalmente, io sono convinto che voi abbiate firmato questo documento con gli altri partiti in totale buona fede, però sono convinto anche che tutti quelli che sono qui stasera sono convintissimi che 250 firme sono troppe e che il 27 novembre è una data troppo a ridosso di questi momenti in cui si sta ancora discutendo, e sono anche convinto che tutti sappiano che queste sono dettate da un ricatto di Partito Democratico, Sinistra e Libertà, PACO e Socialisti. Non solo, il ricatto è ancora più grave, scusate se mi altro, il ricatto è ancora più grave perché due di questi partiti, Sinistra e Libertà e Socialisti, sono partiti che non esistono. Chi sono? Da dove spuntano? I socialisti, da dove spuntano? A Como? Non si sono mai visti. Allora, quando si parla di spaccare il capello, si parla che sono sempre questi due schieramenti che si confrontano e con sempre risultati sempre peggiori dovuti all'astensionismo. Ma chiediamoci perché se facciamo un'assemblea che si chiama primarie vere, e deve essere primarie vere, vuol dire che le altre primarie erano false, perché erano primarie all'interno della coalizione senza apporti esterni, sono diventate primarie del PD e del PD e degli altri partiti che fanno sostanzialmente la spalla al PD. Non saranno mai primarie vere, sono queste cose che portano all'astensionismo, non altre. Non stiamo spaccando il capello in quattro, stiamo parlando di difenderci da certi ricatti che i partiti stanno facendo, un'assemblea che invece parte dal basso, parte da cittadini che hanno piene le tasche di queste cose, ma hanno testa di partito in tasca. Grazie. Una cosa soltanto per correttezza, la data del 20 di novembre sulle primarie del 20 era sempre stata nei documenti che noi avevamo in mano. No, anche le date della, cioè prima di andare qui sono girate, e come giustamente forse è sfuggito quel discorso che ha detto lui dei 20 giorni prima, no? Per il dibattito, no? Perché quando una cosa a me è sfuggita, sinceramente, no? mi prendo la mia responsabilità, no? Dopo non so, è sfuggita, no? Quella probabilmente a tutti noi è sfuggita che da sempre si parlava 20 di novembre, no, per correttezza, No, ma guarda, io ho partecipato a riunioni preparative il 20 novembre, no. Sì. No, c'era scritto su me, lo posso dire. Tutte le riunioni che abbiamo fatto. No, guarda, te lo garantisco, dopo te lo garantisco. Aspetta. Scusa, no, era soltanto per questo. Cristina, e dopo Cristina Sonvico. Io ho partecipato a tutti alla stesura del documento piuttosto che altro, e chiunque ci sono qui sanno quanto io ho lottato per le 80 firme, e loro mi hanno, perché secondo me era fondamentale. Però onestamente non è per parlarvi ragione di Stato, perché è bruttissima, però io mi sono detta, parlo veramente a cuore aperto, ho detto: vogliamo iniziare un lavoro comune oppure no? Vogliamo cominciare a entrare a modificare qualcosa oppure no? Allora, se vogliamo cominciare di nuovo a riappropriarci dei luoghi della politica, dobbiamo farlo, come diceva lei, magari un po' prima, dato che adesso i tempi ci sono. Per me era più importante stare in quel tavolo e non andare via, perché l'alternativa era: signori, ce ne andiamo, questa era l'alternativa. Abbiamo lottato fino ai denti, e sono loro, cioè, che possono testimoniare, ci sono loro due, per certe cose, anche per loro due, come si chiama? Ma chi sono? Non è bisogno di chiamare la testimonianza due persone. No, scusami, persone. Permettimi, io posso chiamare anche di voce. Ma però no, lasciamo intervenire uno, dai, altrimenti. No, cioè io comunque sono stata zitta perché si intervenire. No, ma sì, finisce il no, ecco. Quindi la nostra decisione era: siamo su questo tavolo, la carta dei valori per me doveva andare riscritta tutta, ma tutta, ma a questo punto non c'era tempo. Allora, se vogliamo veramente cominciare un percorso nuovo, come diceva prima Patrizia, dovevamo iniziare due anni prima. Io credo che in questo momento, la decisione oggi, vogliamo cominciare a lavorare sul serio oppure andarci tutti a casa? Perché questa è la domanda che dobbiamo porci oggi. Ci sono delle difficoltà? Sì, ci sono delle difficoltà. Dobbiamo cambiare la testa a tanta gente? Sì, dobbiamo cambiare la testa a tanta gente. Ma la testa non si cambia in un giorno, si cambia con un po' di tempo. Prepariamoci quindi ad andare avanti. Potremmo anche sbagliare tutto, e io sono la prima, ma ci abbiamo provato, e io, signori, scusate, di più di così non potevamo fare. Allora, adesso c'era lui. Sì, no, avevo capito che voleva intervenire. Sì, no, ma mi stanno crescendo un po' di perplessità. Si può presentare, per cortesia? Perché volevo comunque un paio di cose. Prima di tutto, in termini di memoria, è vero tutto quello che si è detto adesso, richiamo al lavoro, eccetera, eccetera. però due incontri fa avevamo fatto la discussione sul numero delle firme e anche sulle scadenze e avevamo detto una cosa precisa, che 80 firme erano quelle che andavano bene perché le altre erano troppe rispetto a un discorso di apparato. Questo l'abbiamo detto. Allora se ha un senso il discorso, discorso che sta, non è stato votato, ma è stato approvato essenzialmente da tutti. Allora se questo non è avvenuto, la discussione è dire l'assemblea la pensava così e quindi dobbiamo riportare la discussione nell'ambito dove è nata, perché questa è una valutazione politica essenziale rispetto anche a quella che è la funzione di questa assemblea. Scusate, io non mi occupo di politica da fumo da parecchio tempo, faccio altrove, ho già detto l'altra volta. Sono venuto qua perché mi interessava capire che cavolo succede in questa città e se c'è la possibilità di riportare qua qualcosa di quanto sta avvenendo altrove. Però allora è chiaro che bisogna definire bene le funzioni di tutti gli interlocutori, compreso il significato di cosa significa assemblea di garanzia. Se l'assemblea di garanzia è un luogo di discussione libera su tutte le problematiche legate alle primarie e all'evoluzione della campagna elettorale, questo è. E si prendono delle decisioni collettive, che sono delle decisioni collettive, magari anche scomode, magari anche che sforzano i tempi, però è fondamentale. Anche perché se no non si capisce come avviene il passo successivo. E questo l'ho già detto l'altra volta. Cioè la capacità di vittoria che ha avuto Pisapia di Milano, perché ha cambiato la percezione della partecipazione politica nella città. Questo è fondamentale, perché ha portato della gente che non votava nelle assemblee precedenti a votare nelle primarie prima che nelle elezioni. E scegliendo poi un'altra cosa precisa, perché siccome si doveva creare anche lo spazio che fosse al di fuori di quello istituzionale dei partiti, di fare una lista civica. Scusate, eh? No, va bene. Gisella Introzzi. Sì, ma io, due piccole premesse rapide, ribadisco che i lavori di questa assemblea, come dicevo due volte fa, sono importanti per lo sforzo grande di raccordo che è stato fatto tra delle componenti diverse. Aggiungo, è importante perché questo risultato di fare le primarie a Como era tutt'altro che scontato e credo che il contributo che sia venuto da qui è forte. Non dimentichiamoci e non buttiamo via questo valore. Ancora di più oggi che vediamo che addirittura il centrodestra è stimolato a fare qualcosa di analogo. La seconda premessa è questa. Molti prima dicevano che siamo meno organizzati rispetto alle forze istituzionali. Io non ci scommetterei poi così tanto, nel senso che se guardo la qualità delle iniziative che sono state fatte, tipo l'ultima assemblea in piazza, il dibattito che circola, sinceramente credo che sia un'organizzazione, un'assemblea che può reggere la sfida sul piano organizzativo di competere con gli altri. In modo diverso, lo diciamo, lo rivendichiamo, crediamoci. Fatto queste rapide premesse, i tempi sono sempre stretti, cioè questo in tutte le attività che facciamo, però purtroppo la scadenza finale non la decidiamo noi, la scadenza finale sarà la data delle elezioni che non conosciamo ancora a primavera e da lì bisogna andare indietro nel contare, nel programmare le fasi. Più tempo perdiamo prima, meno ce ne rimane per dopo, quindi questa è una scelta che dobbiamo, una programmazione alla quale fare attenzione, secondo me. Anch'io ricordavo che l'ultima assemblea che si è svolta qui si parlava del 20 di novembre, io devo dire che ho sentito solo in quell'occasione questa data, quindi mi ero orientata dentro di me su questo riferimento e ritengo che già sia stato un successo spostarlo dal 20 al 27. Oltretutto dal 20 al 27 novembre teniamo conto che se poi lo vogliamo fare entro l'anno, cioè escludendo di andare al 25 di Natale con le primarie, ci sono le tre domeniche precedenti, che anche questo, il mese di dicembre normalmente per qualsiasi tipo di iniziativa viene scartato, proprio perché non è il momento migliore in cui la gente ha la testa, anche su cose più accattivanti, diciamo così, che andare a votare per le primarie. Ma soprattutto dico, se io esprimo tutto l'apprezzamento per chi ha lavorato per costruire questo risultato e anche il fatto di aver allungato una settimana, ripeto, non è secondario. Non rischiamo di disperdere, di riaprire. Se andiamo a chiedere, non mi sembra praticabile, visto che tra l'altro è stato ufficializzato il testo di questo accordo, noi rischiamo di andare a perdere ben più di una settimana di ridiscussioni su questa cosa per guadagnarne non so quanto, ripeto, tenuto conto che al massimo si va al 4 o all'11 o al 18 di dicembre. Mi trovo perfettamente d'accordo con chi prima diceva facciamo attenzione a non disperdere le nostre energie e le nostre intelligenze su delle cose secondarie, saranno stretti, stiamo dentro stretti ma sfruttiamone almeno. L'ultima cosa è questa, l'altro aspetto importante delle primarie è questo impegno poi alle forze che l'hanno sottoscritta a lavorare assieme per la stesura di un programma che sarà il programma della coalizione. Fra parentesi, anche qui credo che l'Assemblea sia avanti, perché l'iniziativa che è stata fatta davanti al Volta, se andiamo a riascoltare gli interventi, già contiene in sé la traccia di un programma molto forte, che altro non ha. Ripeto, il risultato grosso è anche che il candidato, le forze che hanno sottoscritto lavoreranno assieme nel momento in cui ci sarà il candidato sindaco per stendere il programma che diventerà il programma comune di tutta la coalizione per le campagne elettorali per sconfiggere il centrodestra. Allora, io dico, usiamo il più possibile il poco tempo che abbiamo a disposizione per fare un buon programma comune, per farlo conoscere, per vincere. Alla fin fine, rispetto a questo obiettivo più impegnativo e più importante, il tempo per raccogliere le firme mi sembra copribile in maniera più facile. Al limite ci potrà essere una collaborazione, proprio laddove ci fossero dei candidati che hanno delle difficoltà, io credo che ci si possa attivare, perché nessuno rimane escluso perché gli mancano le 10, le 20 o le 30 firme. Michelini. Sì, dunque. No, io dico alla Patrizia che nel frattempo, mentre facevamo queste assemblee, forse tu sei in vacanza, tutti noi abbiamo lavorato, io ho fatto due assemblee, c'era una sala piena, abbiamo parlato di programmi, per la città la stiamo mobilitando, personalmente non sono con le mani in mano. Proprio per questo ho la preoccupazione di stringere i tempi, appunto prima di Natale, poi ci sarà Natale, la gente che si dimentica e poi chissà quando si andrà a votare. Nessuno fa una... Se le primarie hanno un senso perché devono mobilitare la città per poi andare alle elezioni, non è una perdita di tempo, è proprio la preparazione delle elezioni per mobilitare la città per battere la destra. Quindi ripeto, non c'è alcuna fretta, la fretta è dettata da tempi esterni, però insomma bisogna o non bisogna. Io personalmente ho organizzato due assemblee, una terza assemblea mi è andata male perché la persona che doveva venire a parlare ha avuto un infarto, non so Patrizia, che cosa tu hai fatto? Io questo è quello che ho fatto e sto facendo. Mi piacerebbe che tutti gli altri candidati, tutte le altre forze avessero il tempo materiale per mobilitarsi. Se adesso non io, ma qualcun altro si deve mettere a raccogliere 250 firme, su che? Donato diceva giustamente, ci sono organizzazioni che raccolgono le firme così, non su un programma, perché hanno un'organizzazione. Cioè, non nascondiamoci la cosa. Questa assemblea aveva votato per 80 firme, dalle 80 alle 250, c'è una bella differenza. A mio parere, quindi non sto spaccando il cappello in quattro, non stiamo perdendo tempo, stiamo cercando di mobilitare la città, e personalmente io lo sto facendo dalla mattina alla sera per battere questa destra e per poi vincere tutti insieme. Rimando sulla coalizione, allora, secondo me questa, io come dire, condivido in parte quello che dice Pozzoni sul fatto che ci sono delle forze politiche che non sembrerebbero essere radicate in città, e questo mi preoccupa molto, molto. Al tempo stesso però io non disprezzo le forze politiche, perché comunque penso che CEL, IDP, FED, Mazzorati, quindi la lista per COP, sono comunque l'agire collettivo passa per i partiti. Io sono molto qui, non mi piacciono i partiti falsi, però io non è che mi disprezzo i partiti, quindi ho la seria preoccupazione di tagliare fuori altri partiti per motivi puramente ideologici, per beghe di carattere nazionale che non hanno nulla a che vedere con Como. A Como la destra è molto forte, per battere la destra dobbiamo stare tutti uniti, e io non me la sento di tagliare fuori Sel, anche se Sel è nata adesso, anche se, come dire, avrei qualche critica pesante magari da muovergli, non me la sento di tagliare fuori le altre forze politiche, perché o ci uniamo o quelli addirittura se ne vanno a ballottaggio per conto loro. Scusate, un chiarimento su questo. Se tu sai, Luca, chi ha tentato di tagliare fuori delle no, mani? Non ho detto questo, no, cerchiamo di coinvolgere, allora, io ti dico davanti a tutti, che io ho cercato di coinvolgere. Anch'io? Esatto. E non sono presenti neanche qui stasera. Sì, sono presenti. Dove sono? Dai, non giochiamo sulle cose. Guarda, no, io non voglio, né far parlare niente. Non giochiamo sulle cose, perché questo è scorretto. Esatto, non giochiamo sulle cose. Ho detto, io ti sto dicendo che io personalmente, a livello personale, ma nel senso come persone, e ho detto anche nella cosa, un partito mi ha detto. Lilia, non mi conoscono, no? Dico, senta, e anche il deputato o senatore loro me l'ha scritto. Esatto. Ma è passato, esatto, ma però io lo faccio volentieri, aspettavo che li passasse, dico così. Io ho detto, deve essere comunque chiaro che nessuno, perché io poi ho telefonato anche ai nostri membri, cioè ai nostri colleghi del partito, ho detto, ma ci sono problemi? A me è stato detto di no, o la gente mente, roba del genere, oppure no, non quello. Allora, io sto dicendo, questo deve essere chiaro. Che l'assemblea faccia di tutto per fare tutto. Allora, non parliamo però di esclusioni da parte o nazionali. Esatto, ho detto, non credo. No, scusami Luca, non hai detto tu. Ho detto, d'accordo, non hai detto tu. Ho detto che ho sentito in giro. Ho detto, ma ho capito, ho detto che però a Como non è accaduto, ok? No, e questo deve essere chiaro. Si parlava sabato. Tocca a Marco, però scusate, scusami. Marco, scusami. Mi accodo a questa discussione qui, porto modestissimo parere, sono entrato in questa assemblea da libero cittadino, senza partiti, senza associazioni, senza niente, avevo delle aspettative. Devo dire purtroppo che a questo punto per buona parte sono state deluse, però ritengo che forse perché non si è ancora lavorato abbastanza in certe direzioni. Sono rimaste deluse per esempio dal comportamento che state giusto discutendo in questo momento qui delle forze politiche, che indubbiamente avrei sperato di vedere coinvolte nella situazione assembleare fin dall'inizio e che invece ci verranno a proporre delle candidature che qui non sono mai state proposte. Anzi, per adesso io qui una sola candidatura ho visto proposta da quella di Michelin e nessun'altra. Forse ci siamo sempre anche troppo arrotolati probabilmente su questa questione. Peraltro vorrei far notare, non se l'ha notato nessuno in questo modo, magari non sbaglio davvero con la lettura, ma mi sembra che sabato sia successa una cosa singolare, che a me personalmente non mi piace molto. Ed è che sono diventate parte di una coalizione, non un soggetto politico, che rimane lì, ma un luogo, che è l'assemblea. Io non ho mai visto in una coalizione un luogo. Bellissimo, l'architetto questa cosa particolarmente mi affascina. E qui mi pare evidente che Primarie Vere non è mai stato, non ha mai voluto essere, non auguro che mai diventi neanche un soggetto politico, ma che sia il luogo dove i soggetti politici si incontrano. Ora, che i soggetti politici siano solo le associazioni e i cittadini che qui si ritrovano, pure questo mi sembra singolare. Primarie Vere dovrebbe essere il luogo dove si incontrano anche le forze politiche e discutono delle cose. Tutte le forze politiche, io concordo totalmente con quanto sentito adesso, sul fatto che questo dovrebbe essere il luogo dove anche FED e IDV trovano la posizione nella coalizione che non hanno ancora trovato. Mi frega niente se non l'ha trovata per lo più dall'alto o per lo più dal basso. Mi frega a me qui, come cittadino, di tenere le maglie larghe. Tenere le maglie larghe significa tenere sempre quella porta lì, che è una porta fisica di un luogo e non di una lista, aperta per queste forze politiche. Mi interessa anche ogni azione che serva a tenere le maglie aperte. Quindi io ritengo un'azione decisamente provocatoria quella di rimettere adesso in discussione FIFA, ma la ritengo anche una cosa che va nella direzione che avremmo dovuto sempre tenere. Io lo so benissimo come sono andate le contrattazioni, capisco benissimo le posizioni su cui ci siamo dovuti attestare. Allora, a questo punto qua io dico, o qui si fa uno scatto, qua in assemblea, ci si libera da ogni questione che riguarda le candidature e si fa quello che i cittadini sostanzialmente hanno bisogno, cioè si apre il luogo a tutti quanti, perché questo diventa un luogo di programmazione aperto, in cui le forze politiche vengano e non solo raccontino le loro qualche cosa, ma si mettano sostanzialmente anche a disposizione per rispondere alle esigenze che qui vengono fuori, ai programmi che qui potrebbero essere fatti. Invito tutti quanti a prendere parte in questa cosa qui, dando nomi, disponibilità per particolari temi, in modo che si possa produrre dei documenti che in qualche maniera qui vengono discussi assieme alle forze politiche. Direi che insomma il lavoro da fare è ancora tutto da fare, perché quel che si è fatto per adesso, secondo me, ha determinato una separazione orizzontale tra quello che qui si tentava di fare e che quello dall'altro, dove che in realtà si è fatto. Indubbiamente tutta la questione delle date pure ha a che fare con queste cose, adesso voglio dire, sarebbe veramente ingenuo non leggerlo, no, questa cosa. Quindi io da cittadino qui mi sento, uno, piantato che non mi muovo, due, incazzato perché per adesso non mi ha ascoltato il cavolo di nessuno, tre, disponibile con tutti voi ad andare avanti. Punto del genere. Sì, c'era Sassi e dopo Giuseppe Monti. No, un brevissimo intervento anche perché c'era un ordine del giorno e non so esattamente a che punto siamo, nel senso che mi sembra che comunque abbiamo anche un po' sconfinato, forse per necessità, però abbiamo sconfinato dal fatto di discutere la carta dei valori e il regolamento, mi sembra che siamo anche passati molto a parlare anche del ruolo dell'assemblea, che sicuramente è un punto molto delicato e forse uno dei più importanti, anche perché vi devo dire la verità, io ho partecipato molto attivamente, il fatto che siamo ormai alla quarta assemblea più l'evento culturale del Volta e ancora esserci, essere qui a domandarci qual è il nostro ruolo, insomma mi desta un po' qualche preoccupazione, però ci sta. Io penso personalmente che l'assemblea di Prima Rivera per Como intanto è stato un successo, che ha potuto partecipare con altre forze a un tavolo. Poi è logico che io ho parlato anche con altre persone sul ruolo che potesse avere Prima Rivera per Como a questo tavolo. Devo dirvi la verità, il fatto di dare un mandato completamente libero oppure limitato a due argomenti mi sembra abbastanza ridicolo, perché poi di fatto so che durante la conversazione, durante la contrattazione con le forze al tavolo, ad esempio, qualcuno di Prima Rivera per Como ha parlato del principio di laicità a nome di chi? Non che io, non dico che per me sia o non sia importante, non sto dicendo questo, però quello che voglio dire è che io vedevo quella partecipazione intanto come un segnale di apertura da parte dei partiti rispetto a un movimento che quindi anche, secondo me, come diceva prima Gisella Introzzi, ha fatto anche pressione affinché le primarie ci fossero, affinché delle primarie venisse comunicata una data, affinché uscissero anche dei candidati. Perché questo è anche stato un nostro risultato, anche dare un'accelerazione a questo senso. Io spero che ne vengano fuori anche degli altri. Però da lì a partecipare a un tavolo in cui si possono dibattere principi appunto come la laicità, ma tantissime altre cose, principi come la resistenza, quindi tutti i principi della carta dei valori e i principi del regolamento, che sono scelte politiche, giustamente io condivido che il fatto di farle il 27 novembre e non dare un tempo maggiore comunque abbia anche un significato politico. Io personalmente appunto credo anche che questo sia dettato anche da un'agenda elettorale che deve essere molto serrata, però comunque ha un significato politico. Ma non si, cioè, cosa vuol dire? Chi siamo noi e che mandato vogliamo dare a dei rappresentanti per poter fare questo lavoro? Anche perché si può creare la situazione in cui comunque noi non siamo iscritti a questa assemblea, in cui si decidono delle cose molto importanti, ad esempio che persona nominare, questa persona si porta 30 persone che ne eleggono, che il giorno dopo non vengono più all'assemblea. Cioè, l'altra volta io non mi ero neanche accorto, a parte Danilo e poche altre persone, chi fossero veramente i partecipanti a questo comitato che ha discusso il regolamento a carta dei valori. Quindi, secondo me, io concordo con alcune voci, quella di Marco, quella di Patrizia, per cui l'assemblea di Prima Rivera per Como dovrebbe avere il significato di essere un luogo e un metodo di fare politica. Cioè il fatto comunque di essere aperti a tutte le voci è faticoso in molti casi, però il fatto che tutte le persone possano esprimersi è una cosa molto importante, è quello che personalmente mi ha fatto venire voglia di partecipare a questa assemblea. Quindi questa secondo me è la cosa più importante, e realisticamente, dato che dopo dovremo parlare su quale sarà il prossimo ruolo dell'assemblea, io lo dico adesso perché tanto poi non è che voglio strabordare, però secondo me realisticamente noi possiamo continuare a essere uno spazio aperto dove ben vengano tutti i candidati, Ma non dobbiamo niente al soggetto politico, perché qua hanno partecipato persone del PD all'assemblea, hanno partecipato persone anche di altri partiti o movimenti o liste civiche. Cosa voleva dire? Dobbiamo mettere un cartello fuori non entrate? O loro potevano votare? Si crea una situazione che è paradossale. Secondo me primarie per come un luogo, e secondo me dopo le primarie e anche dopo le elezioni questo luogo dovrà rimanere con una dicitura diversa, perché sarebbe ridicolo chiamarlo primarie vere per Como, ma per fare politica con la città, una politica sul coinvolgimento, sulla partecipazione e la trasparenza. Giuseppe Monti. Io sono arrivato in ritardo, mi scuso, non ho sentito la prima parte del dibattito, però mi ricollego a quello che ho sentito in altre due riunioni a cui ho partecipato di questa assemblea, sempre estesa e sempre diversificata quanto composizione. Quindi il primo dato, vedevo aleggiare prima sotto la soffittatura degli spiritelli, mi sembrava di vedere Tafazzi, Fracchia e altre figure del teatro popolare, diciamo così, di ruolo, che sostanzialmente da qualche decennio purtroppo infastidiscono la sinistra. Il primo dato è che pretendere, no, che il centro-sinistra comasco, nella sua estensione dal centro alla sinistra, comprendendo tutti, sia in grado da sé solo di vincere le elezioni a Como, astraendosi da quello che è il contesto politico nazionale, torno a ripetere, l'ho già detto mi pare anche l'ultima volta, è del tutto sbagliato. Voglio dire, senza voler relativizzare questioni di metodo, che sono quelle che riguardano le firme, i numeri, le date, c'è un dato politico, oggi sta crescendo, io lo verifico nei rapporti con le persone, un fenomeno che, dal quale sì, noi dobbiamo dare un giudizio poi politico, e sta aumentando un sentimento aggressivo che noi dobbiamo cercare di dirottare contro la maggioranza che governa il paese, che governa la regione, che governa la città, ma per fare questo puntare solo sulle questioni del condominio Città di Como, che sono importanti, sulle quali dobbiamo preparare ordini del giorno, documenti eccetera, ma dobbiamo fare quello che io ritorno a dire, hanno fatto gli altri candidati del centro-sinistra che hanno vinto. Pisapia ha collegato il suo programma di Milano con la situazione nazionale. Oggi noi come facciamo a fare battaglia politica contro la maggioranza di Como senza segnalare che grazie alla finanziaria che hanno approvato gli enti locali e il Comune di Como quindi non sarà in grado di assolvere a doveri primari per soddisfare i diritti di cittadinanza diffusa, cioè di, soprattutto di coloro i quali vivono nelle condizioni disagiate, le nuove povertà, ho sentito che Nessi, l'Assemblea Pubblica, ha fatto un intervento sotto questo profilo qui, o comunque il disagio sociale diffuso che sta aumentando anche nel nostro semicantone svizzero, con alti tenori di vita, e noi dobbiamo raccordarci con questa situazione. Ora noi dobbiamo parlare di politica con coraggio, senza stare a badare troppo alle sottigliezze di carattere metodologico. Quindi il risultato politico che questo gruppo ha avuto, risultato politico importante, è che si faranno primarie vere. No, non si faranno primarie vere. Ma non è, posso... Si faranno primarie vere, raccogliere 250 firme intorno ai candidati, se si è capace di mobilitarci si raccoglieranno. Quanti siamo qui questa sera? Cumuliamo le persone che ci sono state. Quello che mi preoccupa invece rispetto ad altre esperienze della coalizione di centrosinistra, scusate, è che nella nostra città, non vorrei che secondo una tradizione di tafazzismo, diciamo che viene da lontano, per usare una vecchia espressione del Partito Comunista Italiano, ecco, ci sia un qualche disegno e calcolo tattico di qualche forza politica che per ragioni e valutazioni di poter prefigurare proprie rappresentanze in Consiglio Comunale preferisca astrarsi dal discorso della coalizione, ma proprio come decisione autonoma puntare su una candidatura alternativa rispetto a quelle delle primarie, cioè che si toglie dalla... perché mi pare strano che in questa sede... Scusi se la disturbo, scusate ragazzi, in fondo, date fastidio, Scusa Giuliana. Però da fastidio veramente, scusa. Io non riesco a concentrarmi, se dovete parlare uscite. Bene. No, io concludo semplicemente dicendo che il senso per superare gli spiritelli di Tafazzi, ecco, di fare tutti gli sforzi, non so quali sono i canali più o meno diplomatici e come possa essere utilizzata, diciamo, la forza che questo insieme di persone si è dato in questi mesi per vedere di operare, una, come dicevo prima anche Michelini, il massimo sforzo per avere la coalizione nel suo insieme. Faccio un esempio e chiudo. Grillo ha avuto il 15% dei voti a Bologna, il 10% dei voti a Torino e a Milano è stato sbarrato al 4% perché Pisapia ha avuto l'accortezza di rappresentare la coalizione di centro-sinistra nella sua estensione utilizzando le intelligenze della sinistra radicale, cito Basilio Rizzo, facendo delle liste che hanno fatto argine. Io non vorrei che mentre noi stiamo dibattendo fra di noi ci passi sopra la nostra testa un flusso elettorale che può venire per esempio dall'elettorato giovanile non solo della Lega, di una parte anche di Forza Italia disillusa, che ci scavalchi e passi a Grillo. Per questo io dico, dobbiamo fare attenzione ai contenuti legandoci però, diciamo così, agli aspetti politici generali che riguardano la crisi economica, è stata analizzata all'ultima assemblea con forza da Michelini ed altri contributi che ci sono stati, però io dico bisogna fare politica. Vai. Una cosa da scusa, ti presenti Matteo Mauri da presunto giovane diversamente niente che i giovani dovrebbero forse un po' più di idee e un po' meno politica, nel senso che si attendono dalle forze politiche sostanzialmente, poi quello che c'è a livello politico lo sanno loro, delle idee che vengono proposte, che siano valide e che abbiano un carattere, una potenza che sta fuori. Tutta la dietrologia politica fa parte di un altro campo che noi forse, da quanto capito, non essendo un partito ma un movimento di rottura, dovrebbero un po' lasciar perdere e guardare un po' più la sostanza delle cose. Sarà poi l'elettorato in base a quelle idee eventualmente valutare se è politicamente seguibile quel percorso oppure no, tramite le idee. Però capisco che qui ci sono altre esigenze di altro tipo, un po' più fini, però la sostanza è finora seguita a parlare, la sostanza di idee concrete, di programmi che poi arriveranno, sarebbe il caso magari di dare una spinta su quello, forse. Poi le cose politiche si possono aggiustare magari successivamente, però io da giovane non vedo finora un costrutto. Bene. Maurizio, Michelini. No, Maurizio così se no. No, la signora voleva sapere che. Io penso che, secondo me, io sono abbastanza soddisfatto dei risultati che abbiamo, del meccanismo che abbiamo innescato nella città. Poi sui risultati si può essere invece più o meno soddisfatti. Ma il meccanismo in effetti è stato importante, perché abbiamo riacceso comunque, abbiamo contribuito, diciamo, a vedere un gruppo notevole di cittadini a riavvicinarsi all'idea di intervenire in prima persona nell'amministrazione. E questo secondo me è un dato che dobbiamo, va a nostro merito. Quindi il fatto che ci siamo mossi, quindi nessuno sta. Non so, sembra che sembrava che ci fossero due partiti, uno che dice male e uno che dice bene. No, quindi il lavoro che abbiamo fatto tutti insieme secondo me è positivo. Bisogna guardare anche con oggettività i punti negativi e i punti positivi e saperli distinguere. Di quelli che hanno partecipato. La domanda mi spinge in un'altra direzione rispetto a quello che volevo dire. Comunque te risponderò rapidamente. Quindi diciamo, secondo me il punto centrale per cui mi piace battermi è quello di suscitare il massimo di movimento, di intervento dei cittadini su dei contenuti. Ora, questa assemblea, al di là del, diciamo, di quello che ha già fatto, e magari dandoci un pochino più di ordine, di organizzazione, secondo me ha il compito da questo momento in avanti di suscitare nei quartieri, nella città, di moltiplicare questo nostro discutere. Non dobbiamo stare sempre, trovarci sempre qui, eccetera, ma forse dobbiamo sparpagliarci nella città portando avanti dei contenuti. Già, ma se i contenuti andranno decisi in due insieme, quindi secondo me quello che avevamo già detto all'inizio, dividiamo, facciamo dei gruppi di lavoro che mettono a punto delle idee, chiamiamoli adesso, non chiamiamoli documenti, delle idee, dei progetti, diciamo, su vari temi, e forse questa è una cosa da fare rapidamente, adottando un criterio però di democrazia al nostro interno. Io cito la cosa delle 85 firme solo per rilevare che è uno sgradevole incidente. Io è chiaro che adesso non propongo di andare a ridiscutere, però capirete anche che dopo aver votato 85 mi trovo un 250 firme, non posso dire che sono soddisfatto. È benissimo, diciamo, forse valeva la pena di, non so, forse no, non dico niente. Lì poi mentre si è fatto tutto quello che era possibile, forse valeva la pena di battere di più i pugni e di, come dire, di farci sentire. Vorrei farvi notare che la nostra funzione è molto importante. Diciamo, ai partiti, a cominciare dal PD, serve molto la nostra presenza. Perché diciamo la verità, come dire, ma non solo il PD, il SE, il PACO, eccetera, ecco, hanno bisogno di una, come dire, che ci sia un innesto di popolazione vera. Fino a prova contraria, in questa avventura noi rappresentiamo esattamente questo, perché siamo tutte persone diverse, tutte con una storia diversa, però siamo stati animati dalla stessa idea. Vogliamo riappropriarci dell'amministrazione di questa città, riappropriarci in senso positivo, naturalmente. Quindi io dico che secondo me il lavoro che ci aspetta, diciamo, è quello di costringere i partiti, i PD, i SELF, recuperare di fondazioni, perché altrimenti chiaramente già adesso, se sentite la gente in giro, molti dicono sì, ma tanto sono le primarie del PD, perché sotto varie forme tanti candidati si presentano. Addirittura siamo arrivati all'assurdo che diciamo, Lucini non viene presentato come Lucini, viene presentato come uomo del PD, come Lucini. Oh, intendiamoci, vuol dire che quel partito o non si fida di Lucini o insomma c'è qualcosa che non quadra. Comunque nessuno è stato lì a fare il pelo a questa cosa, però è molto discutibile. Non credo che faccia una buona impressione su un elettore che ragioni questo fatto, ma perché c'è qualcosa, insomma, è chiaro che quindi, diciamo, questa assemblea in realtà gioca un ruolo molto più grosso di quello che lei stessa pensa di se stessa, e quindi qui dovete tenere presente che non abbiamo una forza organizzativa, ma abbiamo una forza, io dico, politica e morale, e questa va giocata, ce la siamo meritata, se l'è meritata Lidia che si è prestato a organizzare le cose, ce la siamo meritata tutti noi che ci siamo dati da fare, e tutti quelli che interverranno. Quindi ecco, cioè, cerchiamo di non dimenticare perché siamo interessanti alle forze politiche. Il fatto di essere andato a tavola alle forze politiche non mi ha commosso neanche un minuto, diciamo, non è che è il fatto che ho capito che le forze politiche hanno bisogno che noi in qualche modo possiamo essere anche una garanzia per i cittadini, una garanzia, come dire, di carattere così ideologico, morale. Quindi, però io quella garanzia vorrei far fronte. E vi propongo di lavorare veramente, di non lasciarci chiudere dentro alle scatole che hanno preparato. Ecco, su quello, per esempio, e rispondo a Fornitore, secondo me quello dei tempi è certamente è discutibile. Le elezioni saranno probabilmente a maggio o a giugno. Allora spiegatemi tutta questa fretta, no? Cioè, voglio dire che qualcuno potrebbe anche sostenersi, ma perché no? Perché non abbiamo fatto tutto con l'anno nuovo, che così... No, dico, adesso non voglio discutere, però io veramente su questo penso che sia giusto chiedersi, ma perché questa pressione? Lasciamo stare la questione delle firme, è andata come è andata, le raccoglieremo. Però anche qui io voglio spendere una parola che ho già speso altre volte. Io ho detto apriamo non a cani e porci, perché già adesso è aperta a cani e porci, diciamo la verità, per alcuni versi, no? Apriamo ai cittadini, ma i cittadini sono anche, può essere anche il condominio che decide di presentare, ma come un condominio? 70 persone, 80 sì, perché cosa c'è? Se noi andiamo a raccattare la democrazia là dove sta, cioè che nel basso, nei quartieri, fra la gente comune, che si è allontanata dalla politica. Si vanno assieme più condominio. Accettare le tue battute non importano, perché allora si mettono insieme più condomini e trovano un candidato magari migliore di quello che puoi trovare tu. Cioè, viene fuori un personaggio che nessuno di noi aveva pensato. Allora cosa c'è qualcosa che non va? È proprio qui il gioco, secondo me, che questo si deve fare. Quindi la mia proposta è questa: andiamo avanti, magari diamo una struttura più organizzata all'assemblea, costruiamo diciamo degli appuntamenti tematici da tenere fuori, magari prima prepariamo qualche argomento su qualche tema. Io personalmente mi candido per parlare della democrazia, cosa vuol dire la democrazia diffusa e la città partecipata su questo. E spero che ci siano delle altre persone, formare un gruppo di lavoro per esempio su questo problema e arrivare. Voi sapete che i consigli di quartiere o di circoscrizione sono stati segati. Io penso che è un errore politico, cioè, no, non nella concezione, certo, così come li hanno fatti erano degli aborti, questo sono d'accordo, ma avere una vera partecipazione dal basso, chiudo adesso, una vera partecipazione dal basso, secondo me è importantissimo. Quindi questo è un tema. Poi l'altro tema era quello dell'urbanistica. Luca Sassi aveva preparato anche lui i trasporti, se non mi ricordo male, c'era qualcos'altro. Ha parlato di un ciclo di iniziative. Un ciclo di iniziative. Quindi tiriamo le fila, organizziamoli tutti bene, in modo tale che da qui viene fuori una discussione su concreto, perché poi anche di. Che cosa vuole il PD? Che cosa vuole il PD per la città? Cosa vuole sei per la città di Como? A parte il fatto che poi nella città di Como non ci sono. Ma cosa vogliono? Cosa propongono? Cioè, e lì dobbiamo vedervi, dico, questa coalizione, cioè, dovrà pure tirar fuori delle idee. Quindi questa è la mia proposta. C'è qualcun altro? Cristina. Dai, io volevo ricollegarmi a quello che diceva la diversamente giovane. Io credo che in questo momento dobbiamo concentrarci sul progetto, cosa vogliamo fare di questa città. Maurizio ha proposto una cosa molto interessante e molto fondamentale. Io propongo invece un problema molto forte che da donna e da presidente del Senato delle Donne mi sento di portare avanti. Noi abbiamo un problema di welfare e di società civile, ma soprattutto non abbiamo uno studio serio sulla demografia e sulla nostra società in Como. Quindi io mi propongo di presentare un gruppo di lavoro che faccia, partendo dalla demografia, facendo uno studio veramente incrociato, uno studio che possa essere di supporto al sindaco del centro-sinistra, indifferentemente da chi sia. Cioè, questo è uno studio che verrà fatto con un pool di persone che vuole collaborare con me, qualcuno ha già dato la sua adesione, ma perché? Perché noi dobbiamo sfatare tanti miti. E allora, visto che dobbiamo sfatare tanti miti, io parlo dell'osservatorio epidemiologico, quindi so di che cosa parlo, dobbiamo parlare con i dati, saper trattare i dati, perché i dati possono dire tutto e il contrario di tutto. Quindi secondo me è fondamentale per questa città sapere la sua situazione sociale e la sua demografia, perché abbiamo un momento di transizione, siamo, come diceva l'avvocato Monti, alle porte dell'Europa. Cioè noi nel 98, io personalmente ho visitato 5.000 kosovari, e nessuno se ne è accorto. Voi non sapete che cosa raccontavano queste persone, alcune sono qui e portano e sono portatrici di culture diverse dalla nostra, dove Dio è importante e la donna è zero. Quindi dobbiamo veramente cominciare a capire come è fatta questa società, ma senza demagogie, le viste borghese. No, dicendo, caro Borghese, no, caro mio, ci sono questi dati. E tu inutile che vai a fare terrorismo psicologico e basta. Questi dati parlano. Perché secondo me è questo che dobbiamo cominciare a fare. Il sindaco di Como ha tolto i servizi pubblici ai cittadini, le famiglie si trovano veramente a dover portare i figli a scuola da cannato e gli stanno proposto o così 200 euro l'anno tutti. Ma sono questi i problemi di cui dobbiamo trattare noi se vogliamo veramente essere alternativi alla città. Cioè dobbiamo veramente andare a parlare con la gente, ascoltarla, perché la gente vuole essere ascoltata. E allora lì che possiamo giocarci. Io l'altra volta ho detto, chi vince 80 firme a Sannino o in via di Vittorio ha vinto la città, non era una provocazione, avete mandato voi la vista dove c'è di arte in via di Vittorio? Io sì, a Sannino, io sì. Quindi so di che cosa sto parlando. Hai visitato anche tu? E ho visitato un signore che una volta, ma no, vabbè, adesso basta. Più mai, no, no, vabbè, adesso no, però l'ordine del giorno. Sì, un attimo, sono l'ultimo intervento, lui dopo un attimo di pausa per sì, mettere. Vai. Nome? Vito Lovi. Io volevo dare un suggerimento che non è da parte di tutti, anzi va addirittura contro le contenti. No, io penso che il ruolo dell'assemblea dovrebbe essere quello che i partiti non riescono a fare, perché io mi trovo di fronte, cioè come nella parte dei giovani, della giovania, facendo parte del circolo di un combattimento, noi facciamo una fatica incredibile a coinvolgere quelli che sono tesserati. L'assemblea parte, uno dice, stai in giro con la testa del partito, chissà cosa fa. Ma quale partito? Il partito democratico, un sacco di gente che è tessata e non si fa vedere. Sembra una cosa assurda, però la partecipazione che questa assemblea riuscita a portare in un luogo sempre con gente diretta, secondo me è una cosa veramente che i partiti non riescono a fare come ricavano questa assemblea, perché i partiti riescono a mobilitare i militanti. Invece quello che può fare questa assemblea è andare al mercato o nei quartieri e forse riproporre, visto che non ci sono più le circoscrizioni, quel tipo di militanza nuova, apolitica, ma politica, che è quello che serve a questa città, perché è vero che in questa città dobbiamo dire una città di centrodestra, ma noi possiamo cambiare, perché sono 70 anni, 80 anni, 100 anni, basta, e quindi bisogna cambiare. Però l'unico modo che si può fare è collaborare con i partiti e con le persone andando nei luoghi dove le persone si trovano, e quindi poi dei cinema, no, perché non ce ne sono più. Però nei mercati, il mercato coperto, dato che ci sono dei pezzi che sono stati tolti dei vani, quello potrebbe essere un punto per raccogliere il primo, per fare propaganda non solo per preliminare, ma successivamente, perché lì passa tantissima gente, è coperto e quando ti vuole gente si ritira lì. E anche dal punto di vista architettonico lì le persone ci sono a salto, dei film che si trovano, anzi. È una cosa che per Luca sarà via tantissimo, però secondo me è più facile trovare 250 firme che 250 voti, perché 250 firme sono persone che si riescono a convincere parlandoci, voti che sono, non so, secondo me quello che dobbiamo fare è andare al di là di questo. Certo, ci sono delle regole che possono essere limitanti, non lo metto in dubbio, però se noi dobbiamo vincere dobbiamo andare oltre questo problema firme e dobbiamo coinvolgere tutta la città, e io penso che questa assemblea possa farlo in più, magari cambiando nome, ma in modo permanente, non solamente una certa campagna elettorale. Grazie. Scusate, se qualcuno. 22:40, 11:15 dovremmo chiudere. Dopo c'è qualche minuto sempre in più, però altrimenti come dopo si fanno delle cose brutte, perché si arriva alle 12:30, tutti stanchi, la maggior parte molti sono andati via, come regola, ma avevamo detto così. Abbiamo fatto un ordine del giorno. un ordine del giorno di cui adesso abbiamo già parlato una buona parte, eventualmente qualcuno può integrare di nuovo. Io direi di riprendere l'ordine del giorno, faccio una breve premessa io, dopo. L'ordine del giorno andando per punti, perché altrimenti non usciamo con i nomi, potremmo anche non uscire, diciamo, con i nomi da me. Sì, sì, aspetta. Stavo arrivando a quello. E poi c'era una richiesta di votazione sulle modifiche. Io vi dico onestamente, no? Io ho partecipato a tutti gli incontri e i pre-incontri e c'è almeno uno che è andato al nostro Michelini Maurizio, no? E sabato Maurizio, che abbiamo delegato lui anche perché era tosto l'impegno, no? E lui è uno che è un combattente nato da questo punto di vista, fin troppo, no? Però è un combattente nato e ci va bene, no? In certi momenti. Però io dico una cosa, noi abbiamo firmato un documento e me ne assumo la responsabilità e credo, esatto, oh, lo so Marta, ci mancherebbe, che le persone che erano con me quella sera, anche se ho firmato io, no, se la sono. Se dobbiamo, ve lo dico chiaramente, se dobbiamo mettere in discussione, no, noi possiamo politicamente poi andare a chiedere alla secondo me, una proposta che faccio, di vedere, di modificare la data. La data era unicamente legata, io non ci ho visto dietro, poi non so se qualcun altro che ha partecipato volesse anche intervenire su questo punto, io non ci ho visto dietro macchinazioni particolari nella verità, ma io sono un po' ingenuo, però me lo dicono in tanti, no? Tante volte dico sono un po' ciula, ma vabbè, è così, no? E dico così, però non ho visto macchinazioni particolari. Mi aveva convinto, ma da sempre, anche perché avevo in mente quella data del 20 di novembre, mi aveva convinto il fatto che si voleva partire, perché il mese di dicembre è un mese che non si usa, non c'è niente da fare. Allora in gennaio saremmo partiti troppo tardi e allora era quello di anticipare, perché altrimenti il candidato sindaco aveva poi poco tempo. Non che le cose sbagliate che sono state dette qua sulla partecipazione sono sbagliate, dico attenzione che sono sacrosante, però come non so, forse ha detto anche il nostro Maurizio Michelini prima, attenzione di tener conto poi di tutto. Sicuramente sono stati fatti anche degli errori nel percorso e me ne assumo, ce ne assumiamo la responsabilità, no, da questo punto di vista. Gestire un'assemblea forse, no, nel 68 sono passati tanti anni, ce ne siamo un po' dimenticati, forse ha ragione. Extremisti siamo, dico, perché adesso io non fatto male, giuro, hai fatto capito, e forse hai ragione, giustamente, ci mancherebbe, però io dico una cosa, noi abbiamo messo anche delle firme e allora io prima di questo dico, si fa la votazione di sfiducia alle persone che hanno gestito la cosa. No, ma non perché No, ma no, no, ma guarda, è una cosa seria, perché guarda che il ragionamento che ha fatto il ragionamento che ha fatto lui in fondo è corretto. Però io voglio non una votazione, io voglio una presa di coscienza comune, no? Che anche se abbiamo fatto degli errori, però sì. Se ne facciamo carico tutti, no? Diciamo, non perché se li abbiamo fatti però in un'ottica di trovare una soluzione, no? Diciamo, a determinate cose, anche i tempi, io me ne assumo, non era questione che ha detto qualcuno, c'era nessun tentativo di fiducia, per una questione di responsabilità, lo dico per una questione di responsabilità, ma non vale, che non penso che tu ci mancherebbe, di responsabilità, perché noi abbiamo anche messo delle firme, no? E se le abbiamo messe andando oltre giustamente a quello, questo è una presa d'atto, e allora dopo uno va alle partite e gli dice, voi ragazzi, loro sono andati oltre, me ne prendo io rispetto a loro, no? E poi dopo si vede anche, perché altrimenti non si può firmare una cosa, fare una cosa e poi dopo una cosa, però guarda che l'assemblea in qualche modo per me ha superato questa fase qui all'inizio, era sì, no, ma lo spirito, ma è una discussione, guarda che la mia e non è soltanto così, è una cosa di dire, perché altrimenti hai messo la fiducia, io ti do la fiducia. la fiducia la metto, hai messo la fiducia, ti do la fiducia. No, no. Hai messo la fiducia. Vabbè, ognuno decide quello che vuole, diciamo. Non incartiamoci, no, infatti dico io, finito. Dopo io dico, abbiamo un ordine del giorno, ecco, seguiamo, perché giustamente, guardate che le cose che sono state dette stasera, oltretutto, sono cose che a me piacciono tantissimo, sono importanti. Quello che ha detto Marco è importantissimo, quello che ha detto, no? Il discorso del luogo, eccetera, quindi non è una cosa da poco, no? Che ci deve coinvolgere, no? Capito? Anche se poi dopo forse qualcuno andrà per vie diverse, ma questo è il vero valore aggiunto, no? Poi fatto con le idee concrete che ha detto i giovani, no? Perché altrimenti non riescono a capirle tutte queste nostre discussioni che stiamo facendo, no? Che sono forse una premessa, e poi dopo io dico, cerchiamo anche di capire, se riusciamo anche a fare anche più un passo in avanti, secondo me è un passo in avanti in più, e terremo conto delle cose dette, delle critiche dette, chiunque, che anche se un altro che poi andrà a fare una certa operazione, eccetera. Allora, io domando, siete d'accordo a riprendere in mano e poi dopo diciamo l'ordine del giorno con le variazioni che vogliamo fare? Io ho bisogno, ecco, di rispettarlo. Allora, l'ordine del giorno, scusatemi, era due persone per il comitato direttivo e uno per il comitato di garanzia. Ecco, qui non è che è un altro errore che abbiamo fatto di non aver pensato tante persone, no? Dico, anche perché cercavamo di vederle anche qui all'interno, di proporle qui all'interno. Anche questo da una parte è una forma di garanzia, dall'altra parte uno ti può dire se è anche un po' impreparato. Spiega bene, no? Scusa, spiega cosa serve. Chiedo una cosa, spiega bene cosa serve. Cosa serve, che cosa sono. Giusto. Allora, brevissimo, tanto ci mettiamo 5 minuti. La commissione di garanzia. Il collegio di garanzia è composto da 4 persone scelte all'unanimità dei rappresentanti dei soggetti di coalizione. La funzione è incompatibile con altri incarichi di partito. Il collegio di garanzia decide tempestivamente su ogni controversia insorta tra i candidati o tra questi e il comitato organizzatore. Alle riunioni partecipa il responsabile del comitato organizzatore o un suo delegato senza diritto di voto. Compiti del collegio sono: verificare l'ammissibilità delle candidature, decidere in merito ad eventuali contestazioni sul risultato delle contestazioni, delle consultazioni, oppure su contestazioni in merito alla presentazione delle firme, vigilare sul rispetto del presente regolamento del codice di autoregolamentazione, vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio, ufficializzare i risultati della consultazione e proclamare il vincitore. Quindi è una persona, si presume con un minimo di pratica, di autorevolezza, equilibrate anche se non sono equilibrate, che sappiano ragionare in questi termini. Stavo dicendo una cosa perché equilibrate ma competenti. Esatto, equilibrate, stavo dicendolo io, no? Dopo però non potevo nominare uno, no? Che dico, però si può capire. Faccio io una proposta, sì. Dato che abbiamo una demografa, sì. Ed è una, di solito i demografi sono persone prestigiose, le chiedo a Cristina, scusi, di dare la disponibilità per il collegio sindacale. Sì. Commissione di garanzia. Formazione professionale. Avete capito? Io se volete ci sono. Miro. Sì. Non per tornare a quello che dicevo prima o avevo stabilito. Allora, qui sia per la scelta delle persone che possiamo scegliere anche fra una settimana, allora, se leggiamo quei due regolamenti che avete... È una cosa delle firme. La Commissione di garanzia nomina gli sindacati. La Commissione di garanzia si trova il 20 o 21 di ottobre. No, per, come? Si trova qua, si trova il 20 o 21. Io la firmo, la ammissibilità dei candidati. L'ammissibilità dei candidati. Se uno si presenta come candidato. Allora, voglio dire che c'è tempo per decidere in questa assemblea chi saranno le persone che potranno diventare componenti della commissione di garanzia e anche componenti del comitato. Una cosa importante, secondo me, va bene, non votiamo di andare a proporre lo slittamento della data. Teniamo buono il 27 di novembre, teniamo buono, però allora se teniamo buono il 27 di novembre, teniamo buono la l'iter procedurale che arriva il 27 di novembre. Allora, quello che invece l'assemblea dovrebbe andare a proporre, i delegati nostri che hanno firmato, che potrebbero fare così, andare a dire non ci siamo accorti che magari si poteva iniziare il confronto pubblico, perché qui giriamo sempre intorno, cioè ci parliamo fra di noi, no, ma quello, ci diciamo, cioè, quello che ci interessa è andare nei quartieri, certo, è andare a proporre degli incontri dove partecipano tutti i candidati sindaci delle primarie. Cioè, a me, cittadino di Como, chi mi dice perché votare Mario Lucini o non votare Mario Lucini? Perché votare Luca Michelini o non votare Luca Michelini? Perché non votare Danilo Iantorno? Io faccio i nomi di quelli che si presentano come. Hai capito? Io vorrei sapere da Luca Michelini, da Iantorno, da Lucini, intorno dei tempi, che si discute con la gente. L'urbanistica di questa città, i kosovari, la sicurezza di questa città, cosa chiede la gente? Ma se vai a parlare con la gente ti chiede queste cose. Sì, però Guido, scusa. Allora io potrò votare per Lucini, per Michelini, per Iantorno, per nessuno di loro, e anche se ho votato per, e ho messo la firma per uno di questi, che io posso mettere la firma per Iantorno e poi andare a votare Lucini perché mi convince di più, no? E poi, o posso anche non votare nessuno, se Rifondazione mi presenta un candidato che magari mi dice qualcosa di più, perché non devo andare, cioè me ne frega più delle primarie, ok. Allora, quello che dovremmo chiedere agli altri, a PD, Paco, SEL e Partito Socialista, che con primarie vere per Como hanno sottoscritto, di togliere quel punto del regolamento che i dibattiti pubblici cominciano 20 giorni prima del 27, cioè prima del 7 di novembre non si può fare un dibattito. Allora le firme sono raccolte entro il 20, il 21 si sa chi sono i candidati, ma noi come assemblea facciamo un programma. Diciamo il 23 di novembre, non so, il 23 di ottobre, facciamo la prima assemblea a cui vengono anche il luogo, è il luogo dell'assemblea, del confronto. Per cui noi adesso dovremmo, prima di preoccuparci se mandare Pinco Pallo o Mario Rossi alla commissione di garanzia, che non ce ne frega niente in questo momento. No, la tua proposta può essere correttissima. Mentre noi dovremmo decidere, noi adesso decidiamo delle date per degli incontri e dei tempi. Guarda, Guido, che però dobbiamo decidere in 3 mesi, li decidiamo subito. Noi dobbiamo decidere in 3 mesi subito che vanno via, anche perché servono per nominare i candidati. No, non parliamo di scusate, questo è un momento delicato, so che tutti tranquilli. Allora, facciamo per un giro, poi ho capito benissimo quello che hai detto, dopo lo riprendiamo. Una domanda banalissima, proprio di informazione, al di là di chiedere di ampliare questi tempi perché sì, non si capisce perché c'è bloccata, ma cosa vuol dire confronto pubblico? Perché credo che le iniziative dei forse confronto pubblico. Potrò esprimere la mia opinione sul fatto che non mi interessa, poi voglio dire, bisognerà pure avere anche un attimo di occhio, perché io alle responsabilità collettive, no, ci ho creduto per un po', ma è da un po' che non ci credo, perché le responsabilità collettive vuol dire che quelli che lavorano ce l'hanno sempre in quel posto, quelli che non fanno niente, capito? Allora le responsabilità collettive lasciamo perdere. Allora le persone che vanno scelte devono avere una credibilità, però c'è un ordine del giorno. Ma adesso facciamo un altro, ma non dovevamo votare, invece stiamo facendo il dibattito che abbiamo fatto prima. Hai ragione. È l'11 di sera, sì, sono le 11, siamo al secondo punto. Allora io direi che interviene brevissimo per non togliere la parola a nessuno, possibilmente legato a trovare la soluzione a questa cosa che stavo dicendo. volevi dire qualcosa? Sì, voglio dire che vanno nominati perché altrimenti blocchiamo il processo e controllo, no? Immediatamente, no? Visto che i tempi sono ristretti, nominiamoli. Secondo luogo, non illudetevi, appena avremo la presentazione delle candidature, ogni candidato avrà il suo staff che si farà la sua autonoma campagna elettorale come è avvenuto l'altra volta, no? Noi che abbiamo sostenuto Bracchi la facevamo per Bracchi, no? Anche perché può darsi che qualche candidato si sottragga al confronto, come avvenne allora, no? Però è l'ultimo punto dell'ordine del giorno. Aspetta un attimo, allora io direi, la cosa detta dal Capizzi è una cosa che è importante, perché secondo me questo è un punto che è andato via a tutti e non penso che sia un punto importante da dare, si può modificare, e sostanzialmente lui ha profondamente ragione. Scusami, non ti ho detto di no, perché non sono invece d'accordo sul fatto che invece nomi no, ma proprio per quello che ha detto lui, perché blocca, ma infatti me l'hanno già telefonato 3-4 volte e gli ho detto: ragazzi, state calmi, stasera c'è l'assemblea e diciamo. Benissimo. Allora, c'è una proposta per la commissione di garanzia, persona, autore, vabbè, quella roba lì, ecco, che è quella di Cristina Sonvico, che ha lavorato, è abbastanza conosciuta anche da voi, no? Per me va bene. Votiamo, alzate la mano. C'è qualcun altro che vuole esprimere qualche altra indicazione? Quanti abbiamo trovato? Uno per questo, per la garanzia. Lei per la garanzia? D'accordo, votiamo, siete d'accordo. Chi è d'accordo? Non potevi farla tu la garanzia, porca vacca da Dio, e tu prenderti il posto che ce l'abbiamo ancora quella coprire, che facevamo prima. Ragazzi, diceva che poi tutte le cose le ho fatte io, invece me ne avevo detto. Tanto se va tutto bene non lavora neanche sostanzialmente. Appunto, ma lui voleva mettermi lì tra le mummie. No, tanti due adesso. Allora, siamo d'accordo. Chi è dico chi è contrario? Vabbè, nessuno contrario. Nessuno sono contrario al mio. No, no, la città, la persona, oh, un contrario ce l'ha, e questo va bene, peggio dei due. Adesso dopo, vabbè, no, gli astenuti, scusami, vabbè, passiamo ai due. Alle due invece del comitato organizzatore, che sono, che ha... organizzatore, raccogliere le candidature alle primarie, sovraintendere lo svolgimento delle primarie, vigilare sul rispetto del presente regolamento, dal momento della proclamazione e presentazione delle candidature, la comunità del organizzatore viene integrata con un rappresentante effettivo, ah beh no, sì, cioè perché il comitato organizzatore è di 10 persone, poi dopo verrà integrato non appena vengono nominati i candidati sindaci alle primarie da una persona nominata da loro. Quindi ha una funzione piuttosto organizzativa. Tenete conto che... Chi si propone per il comitato organizzatore? Io propongo Alfa. E lui è un valido organizzatore. Se non dice posituri, noi possiamo metterci un dito sul cuore. No, non dà. Raffaele, sei d'accordo? No. Maurizio. Perché se studiamo i giovani, diversamente giovani, per caso, comitato organizzatore, sì, anche una certa disponibilità anche penso durante la giornata, stiamo cercando una seconda disponibilità. Maurizio è già passato. Luca, Maurizio è già passato, senza che lo sa. Io credo ci sarà da collarci, però collarci se vorremmo fare quelle iniziative con cui ci eravamo lasciati il giovedì, ma non penso che siano due cose diverse, per cui io vorrei fare queste altre. scusa, perché non lei che... Marta, Marta Pezzati. Io lo faccio solo solo con Marta No, c'è basta. Stavo scherzando. Non posso. Fagiano lo fa o no? Non posso. Non può. Fagiano non può. Marta. Devo seguire la campagna. Ci vuole una persona anche che Marco vuoi fare, poi no, non sei certo. Se non escono adesso soprassediamo Maurizio, io non c'ho un cazzo di voglia, lo sapete, lo giuro, cioè nel senso Maurizio e poi non può fare il resto, ma cazzo amore, se non faccio un altro nome che l'abbiamo coinvolto l'ultimo momento, ma non perché così c'è il conflitto di ci vuole anche un attimo di disponibilità, perché effettivamente altrimenti io Gianfranco Giudice. Sì, Gianfranco Giudice, sei d'accordo? Votiamo. Allora, proposta. Perché non ha detto di no, sono un po' timidi e poi fate tanto. Gianfranco Giudice e Marta Pezzacci, siete d'accordo? Se siete d'accordo? Noi votiamo, dopo loro dicono di sì. Io sono d'accordo. Chi è col... astenuti no, chi è contro astenuti? Nessuno. Contrario? No, io mi astengo. Un contrario, va bene. Allora, dopo bene. Dopo prendo nota. Facciamo il candidato, ma in conflitto. Controllo. Sentite, scusate un attimo, sul ruolo dell'assemblea, adesso parliamo del ruolo dell'assemblea, così portiamo a conclusione quel discorso che abbiamo fatto. Io personalmente, allora, vorrei mezzo minuto, io personalmente sono d'accordo che l'assemblea abbia un ruolo, debba avere un ruolo di promozione, di incontri, di dibattito autonomo dei candidati. Ma per questo non vuol dire che non devono essere coinvolti, no? Anzi, devono essere coinvolti sui temi. Adesso ha ragione Capizzi, perché però non è mica soltanto il suo pensiero, ma dico, lui l'ha scritto. Dobbiamo andare nei quartieri da subito, no? Perché siamo già in ritardo rispetto ai quartieri, no? Da anni, no? Siamo in ritardo, arriviamo soltanto nei periodi elettorali ai quartieri. Dobbiamo dire ai quartieri e saper dire e saper parlare, no? Quindi per me va bene. Quindi è quello di mettere giù delle tematiche, no? Se adesso dopo, dei temi, delle date, no? Qui si può organizzare adesso, non metterci adesso a discutere, no? Ma mettere in rete questa idea e vedere, non so come fare a raccogliere con 3, 4, 5 persone o 6 o 7, quelli che sono disponibili, esatto, chi vuole, giusto, per raccogliere i temi e proprio a livello organizzativo, diceva anche lui, non so chi un po' più di organizzazione ci vuole, no? Dico, perché altrimenti anche noi così. Io sono di questa opinione, no? Diciamo. So, quindi io direi, propongo che chi vuole far parte di una struttura che programmi tutte queste iniziative, lo mettiamo giù, se li mettiamo giù si fa una rete di mail tra di loro, certo, dico, no, ma vediamo se c'è qualche altra idea. Io ho detto buttato di uno, così deve essere con te anche questa qua. Sì, ma dico, ma aspettiamo se c'è qualche altra idea, che varia, che integra, che la sostituisce. Una domanda e poi una. Di quello che il discorso che era uscito prima da un po' di interventi sul fatto che l'assemblea comunque c'era abbastanza malessere sul discorso dei 250 firme rispetto alle 80, è una cosa che si può rimette in discussione o rimane questa? Rimane questa. Rimane questa. Posso? Sì. Un attimo, non mi sta io sono Giampaolo. Secondo me la questione che viene di proposta, no? Questa insoddisfazione dell'80-250, mentre sarebbe generoso e anche suicida porlo nei termini di critica nei confronti di chi è andato lì, ha fatto sicuramente tutto il possibile, ed è probabilmente anche suicida cercare di rimettere in discussione, perché di fatto non si può. Secondo me l'assemblea vuol dire che prende atto ma critica, cioè questo è legittimo, cioè che almeno ci sia dal punto di vista dell'assemblea il fatto che ho votato collo, sarà così, ma non che bello, perché effettivamente ci sono delle cose positive, ci sono delle altre che di fatto preoccupano, poi come niente potrebbero anche essere preoccupazioni ingiuste, però preoccupano soprattutto sul piano simbolico, perché io personalmente non credo che poi sia un ostacolo così grande 250 di RIN, ma il fatto di voler porre la sticella così in alto fa mal pensare, e come pensano male molti di noi, senza per questo dare nessuna responsabilità, che ha fatto tutto il possibile, ma la precedente assemblea non ha votato nei termini, se non sono 80 spaccategli la faccia, quindi non è che è stato tradito un mandato, però di fatto non va bene. Allora io credo che senza in nessun modo confermato pienamente la fiducia di chi ha fatto questo lavoro, si possa ben dire che l'assemblea ne prende atto ma si rincresce della situazione, non credo che sia troppo di estremismo, cioè soffre, insomma. Non so se è una categoria politica. Molto democristiana. Ecco, un po' democristiana, però voglio dire, è una grande tradizione. Vabbè, proprio. È un concilio. No, perché anche c'è da qui che alla fine siamo tutti d'accordo, nemmeno no, è bellissimo, no? Io faccio la rompivalle fino in fondo oggi, abbiate pazienza. Io comunque, ho detto semplicemente questa cosa che hai detto tu. Noi accettiamo 250, ma sappiate che la nostra assemblea non è d'accordo. Quindi non è che è stato tradito, l'abbiamo tradito fino alla nausea. È stato appunto, come ho detto, per dire non spacchiamo il tavolo sulle 80 firme, perché secondo noi era più importante. Però è stato ribadito, almeno dalla sottoscritta per tutti, che 80 firme era veramente un esempio di vera partecipazione. Sul ruolo dell'assemblea, io penso questo, che l'assemblea deve continuare a svolgere, visto che questa è stata la scelta, un ruolo di garanzia e di luogo di dibattito, che a mio parere deve forse anche l'obiettivo di andare oltre le primarie e anche oltre le elezioni, e propongo subito un cambiamento di nome, che da primarie vere per Comodi, ovviamente dopo le elezioni è proponibile, a primavere per Como, che è quasi uguale ma ha un significato completamente diverso, perché effettivamente se si riesce a creare un ruolo di dibattito, se non gli eventi della provincia, eh? Se gli eventi della provincia, quindi dà la primavera e prima una stagione, cioè non è stata la provincia, così la provincia si fa pubblicità, che ora riguardo alle attività da svolgere, a mio parere va detto oggi che tutte le attività andranno a coinvolgere sia i candidati alle primarie sia altri soggetti, cioè gli altri soggetti che ovviamente condividono il percorso, non so se si può usare questa parola, mi sono vagamente di sinistra per capirci, non so se è diventato un insulto, quindi perché se no non ci capiamo più, segnatamente i partiti, ma non solo, perché mettendo tutti i partiti insieme convinti non arriviamo al 20%, secondo me, quindi c'è molto di più. Terzo, le candidature di persone interne che hanno partecipato o non hanno partecipato, è giusto che trovino qui nei dibattiti che noi facciamo delle occasioni di presentazione, di dibattito e di discussione nei modi che poi andremo a organizzare. Non è un'idea proprio nuovissima il fatto di andare nei quartieri, guardate che si è sempre fatto. Il problema è poi riuscirci, a me si è sempre detto che si sarebbe fatto, tutti l'abbiamo detto almeno più volte in ogni consultazione. Riferisco, visto la parola, dal punto di vista dell'ARCE, che organizzerà, credo che ci sia già stato un incontro tra Enzo con te, organizzerà degli incontri, uno o più incontri vedremo, nei quali i candidati saranno chiamati a un dibattito. Così credo debba fare con l'ARCE o senza ARCE questa assemblea, chiamando a un dibattito. Però io chiederei che non si tratti però di un ruolo così debole, cioè vengono i candidati, si parla, perché alcuni punti, perché se no facciamo come dire i coordinatori. Mi pare che alcuni punti qui sono venuti fuori, c'è stato un dibattito politico qui dentro. E quindi prima di tutto si deve parlare di quello, cioè si deve parlare, non si può semplicemente dire ecco urbanistica, trasporti, si deve porre il nostro tema, che è quello che mi pare sarà il coordinato da Maurizio, se ben capito, questo della democrazia, no, insomma, mi pare che era stato ventilato, questa ipotesi, questa della democrazia partecipata o diretto o come volete, che per me significa sinistra, ma sono un problema che ho io, che ci sia, perché se no diventa la passerella, se no lo fa Espansione TV, guardate che lo fa Espansione TV, e francamente non ci mettiamo tutto sto casino, tutte ste nottate per fare il dibattito di Espansione TV, francamente loro sono anche pagati. Allora, Maurizio, tu? Sì, cioè io volevo passare un po' oltre, cioè nel senso che do per scontato che il risultato delle firme è quello, anche se io personalmente sono insoddisfatto, questo però non mi spinge a non vedere il buon lavoro che abbiamo fatto e soprattutto a ripromettermi di farne il migliore. Primo. Quindi, secondo, vorrei dire, andiamo, facciamo un passo avanti, il lavoro, cominciamo a organizzare il lavoro. Io vorrei che da questa sera uscisse un gruppo di cui io faccio alcune proposte, che ci sia Marco, presidente Marco, che ci sia la Gisella Introzzi, no? Io mi candido anch'io per far parte di questo gruppo, che ci sia Guido Capizzi, che ci sia qualche un altro di giovane, anche Luca. Che, come dire, facciamo una, come dire, una, non un evento, ma facciamo una scelta di argomenti che riteniamo, come dire, fondamentali per, da discutere con la gente, da portare in mezzo alla gente, e a un certo punto individuiamo, li discutiamo, in modo tale che, come dire, chi su, poi si faranno dei. Io dico, si faranno degli incontri con i quartieri, ma io non mi illudo di andare a fare l'incontro con Lucini, eccetera, perché non mi illudo che venga a sé, ma a me basta che invece sia questa assemblea a sciogliersi dentro i quartieri, perché se portiamo le nostre idee nei quartieri, sono convinto che trasciniamo anche gli altri, anche, cioè che riusciamo a trascinare gli elettori anche di quei quartieri. Va bene, e trascinati su dei contenuti, guardate qui continuiamo a parlare di candidati, ma qui parliamo di contenuti prima, per la Madonna, una volta che, scusate, no, non volevo dire questo, comunque parliamo di contenuti, perché poi è chiaro, man mano che si parla dei contenuti vedrete che salteranno fuori delle persone che sembreranno le più adatte a portare avanti un contenuto piuttosto che un altro. Ci sarà una selezione naturale, non la solita selezione del cacchio che... Vabbè, altra cosa, scusami, allora, se siete d'accordo con lui, questo terminerei l'intervento. No, ma... Stavo già... solo per formazione professionale passa. Allora, abbiamo votato che vanno presentati, chi ci sarà un momento in cui chi va a presentarli, tu perché hai sottoscritto. Ecco, allora, in quell'occasione tu puoi avere un mandato dall'assemblea per far modifiche, per proporre, poi magari non passa, però per proporre la modifica di quel punto un po' strampalato che dice i dibattiti iniziano il 20 giorni prima. I dibattiti iniziano il giorno dopo. La commissione di garanzia ha definito i vari delle, per cui dal 22 di ottobre, in modo che anche noi possiamo essere liberi di fare un calendario di... Ah, e poi un'altra cosa, legandomi a quello che diceva Gianfranco, bisognerebbe anche inserire che, perché lì è detto che i candidati delle cinque primarie vere, se poi sono 20, ma che sia aperta anche a candidati di altri gruppi che non hanno sottoscritto ma che si riconoscono nell'area della carta dei valori, che è negare a un candidato di rifondazione o del Fed qualora ci fosse di partecipare al dibattito. L'ultimo intervento, dai. No, soltanto prima di tutto per citare una cosa rispetto a prima, vorrei dire, se la funzione dell'assemblea vuole essere una funzione di garanzia, manifesta soprattutto esigenze, contenuti e tutto il resto, non una linea politica, e quindi il senso di quello che esprime l'assemblea è un sentimento comune e condiviso, e quindi come tale va manifestato come malessere in tutte le sedi, se no, o benessere in tutte le sedi. Questo riguarda il discorso, che non è un discorso di fiducia o di sfiducia, eccetera, eccetera. È una valutazione che è stata fatta e come tale è stata fatta. La seconda cosa è sui tempi, nel senso che il primo lavoro da fare da qua al 20, qua al 27, quando sarà, eccetera, eccetera, è soprattutto di portare la maggior parte delle persone a votare alle primarie. Quindi convincere che le primarie sono ancora serie, che i candidati alle primarie sono persone serie, e quindi una funzione essenziale è quella di realizzare il massimo del confronto attorno a queste cose, che vuol dire anche avere anche dei contenuti specifici. Poi ben venga l'attività degli staff, dei vari candidati, ci deve essere anche quella. Allora, il compito, la funzione nostra è soprattutto quello di favorire al massimo invece i confronti e gli sviluppi su alcune cose, prefigurando quello che è il passaggio dopo, nel senso che se deve avvenire poi che il candidato che vince è il candidato di tutti, si stabiliranno poi dei laboratori di confronto sui temi specifici, in cui vale la manifestazione delle esigenze delle singole persone e l'utilizzo delle competenze delle singole persone, come è stato fatto, e bene, secondo me a Milano. Guardi, prima non mi sono presentato, io sono Fiorano Lancati, sono di un'altra ACI, non di quella di Como, e mi occupo di frivolezza, tipo musica, eccetera. No, non ho capito, non ho Fiorano Lancati. Poi lavoro da anni all'ACI di Milano e mi occupo di... Bene. Allora, concludiamo definitivamente la serata. Io ho qui dei nomi, però invito tutti, no? Anche a segnalarli dopo li mettiamo in rete, no? E chiunque voglia aggiungersi, secondo me lo parlare di rete, ma a me non arriva mai nessuna comunicazione. Mi hai scritto la mail in vista? Adesso non so, ciao. Prendi nota. Allora, io segno quello che avevo sentito prima, Cristina Sonvigo che voleva trattare un certo tipo di discorso, Marco Longati che si era presentato, Maurizio Michelini, Gisella Introzzi, non lo so, è lì, no, non so. Capizzi, no, perché aveva fatto il nome lui, no? Sì. Devo vedere quali altri impegni mi sto prendendo. Vabbè. Disponibile, te lo confermo. Ti do una risposta. Tengo in sospeso. Luca Michelini. Sì, un attimo. Luca Michelini, non lo so. Poi Patrizia Signorotto, che dopo gli, i temi di ognuno verranno detti dopo. Danilo Liglia, mi sommetto dentro anch'io, no? Dico. Eugenio Spolidoro. Io. Edoardo Spolidoro. Io do la disponibilità. E l'architetto ti sei messo? Sì, sì, sì. Danilo, io anche sull'organizzazione di rapporto, sì, anche sì, sull'organizzazione di tipo il media, devo collarci così. Chi si scarpina? Però c'è tutta una presenza. Chi altro vuole entrare? C'è la presenza maschile massiccia. Faccio presente che questi non caso, sono già stati messi in piedi assieme al gruppetto di allora, che esiste o non esiste più. No, decidiamo però. Prima ho proposto questo lavoro sui temi, adesso questa mi sembra che sia la cosa importante. Beh, comunque sul minuto ci abbiamo un professore scorciato. Invece entra la stessa cosa. Anche lì là. Ah sì, però non puoi dire che non si fanno parlare di un evento, che sennò che senso ha? Dai, che? No, no, io vorrei. Vedi tu. Però no, che cos'è? So, ci sono altre persone. No, dai, dai. Poi se ho dato un cazzo. No, sì, no, sì, no, sì, sì, sì. No, perché al di là dei temi sarebbe un po' di tempo per organizzare il format della cosa come per i volti. Sarebbe importante il format, vediamo anche i conti, che su quello vorrei entrare. Scusate, così almeno concludiamo con questo elenco che dopo faremo girare, al quale si possono aggregare tutti, no? Dopo ci sentiremo anche con tutti loro per meglio specificare il tema su quale intendono lavorare, eccetera. Direi che l'assemblea di questa sera si può ritenere chiusa. Grazie e buonanotte. Ricordatevi, scusate, la casettina gialla se qualcuno vuole mettere l'occhio. Danilo, non è chiusa. No, no, non è chiusa. Non è chiusa. Ma la chiusa è tardi. Scusate, tardi. No, andiamo avanti la prossima volta. Non è chiusa, nel senso che proseguirà. Ah, lo sai, no, andiamo per scontato. Avevamo mandato, lo avevamo deciso da te.